para analisar as relações Brasil-Itália, Domenico Silipoti. Este governo foi colocado lá para resolver alguns assuntos econômicos que a hoje não conseguimos resolver. La Zanzara. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi perché non sanno più cos'è l'amore, il vero amore. Adesso sembrano andare d'amore e d'accordo, uno candida l'altro al Quirinale, alla presidenza della Repubblica. Sto parlando naturalmente di Grillo e di Pietro. Ma sentite, sentite quello che diceva Di Pietro di Grillo non 100 anni fa, lo scorso maggio. Qual è la differenza fra l'Italia dei valori, fra me e Grillo? Che Grillo ha detto: sfasciamo tutto, io voglio assumermi la responsabilità di una ricostruzione del paese. E sentite invece Grillo versus Di Pietro. Lui è un insegnante di procedura penale e fa le lezioni al CEPU. Sarebbe già da vergognarsi così senza dire un cazzo. La notizia clamorosa non è questa, è che il CEPU ha 102 sezioni, diciamo, sedi in Italia, tutte sotto sequestro dalla finanza. Il CEPU è imputato di associazione a delinquere, bancarotta, usura, riciclaggio, e lui ha fondato l'Italia dei valori in una sede sotto sequestro della finanza del CEPU. Caro Parenzo, ha ragione il tuo amico Freccero, che mi viene incontro dopo quello che ho detto ieri, mi viene incontro il mitico, intramontabile Carlo Freccero. Spero che tu, durante le ore che hai passato oggi di ozio, avrei avuto tempo di leggere questa intervista sulla stampa e altrove del signor Freccero su Beppe Grillo. Hai letto per caso? Di ozio detto con rispetto, un cazzo, perché va bene, lasciamo perdere tutto questo il giorno. Poi... e ti leggerò nel corso di tutta la puntata tutta la sentenza del Tribunale di Roma, terza sezione del lavoro, che condanna la fabbrica italiana di Torino a riassumere quegli operai discriminati dalla Hai letto, Freccero, lascia perdere questa pagine che ti leggerò per tutta la puntata. Sì, io infatti te lo consentirò, sicuro. Per tutta la puntata io parlerò soltanto di questo. Senti, buffone, hai letto l'intervista a Freccero o no? Benissimo, no? Hai letto cosa dice Freccero? Sì, ha ragione lui, la Salsi è tanto carina, ma ha sbagliato ad andare da Ballarò. Ha sbagliato? È omofobo anche Freccero quando dice tanto carina? È omofobo? No. È omofobo? Dice che i talk show sono una casta. E no, dice Beppe... quello che ho detto io ieri. Dice esattamente quello che ho detto ieri. Non citare il maestro a sproposito. Fa un ragionamento da uomo di televisione. Senti. Dicendo che essendo i talk show una casta con il solito giro, per tenersi vivo Grillo deve chiaramente usare questa strategia, ma ne spiega le ragioni. Senti, non lascia è che perdere, dice... non fare il filosofo che non sei in grado, no, non fare l'analista che non sei in grado. Freccero, un attimo, stai zitto. Sì. Freccero dice: i talk show sono la casta. Beppe lo sa e li evita. Casaleggio è un genio. Ha sbagliato questa signora, come si chiama? Salsi, questa consigliera comunale di Bologna, ad andare lì. E poi diciamo la verità. Salsi, come si chiama l'altra? Pirini, no? Pirini. Sì, ma non fare come Emilio. Sentiamo Fede, la Pirini. No, la Salsi ha fatto bene. Pirini questa mattina ad Alessandro Milan. Federica Salsi ha fatto, penso, bene, tanto poi saranno gli italiani a capire se le è stato dato il giusto spazio oppure no. Lei ha detto cose giuste. E poi dice anche: se non andiamo ai talk siamo tagliati fuori. Il problema però è anche che se non impariamo a misurarci comunque con queste modalità, poi rimaniamo tagliati fuori da una fetta grossa della popolazione italiana che merita di essere informata su quello che sta succedendo anche nel Movimento 5 Stelle. Ma come va? Poi sul punto G, non è una battuta di buon gusto, offende il genere umano. Questa frase di Beppe Grillo sul punto G che ti dà l'orgasmo nei salotti dei talk show, le è piaciuto? Assolutamente no, non ho nessun problema a dirlo in pubblico perché penso che sarebbe un'offesa per il genere umano pensare che quella sia una battuta di buon gusto. Allora io dico una cosa, a parte che questa storia del maschilismo eccetera è ridicola, ridicola, assolutamente ridicola, e poi dico, scusatemi tanto, signora Salsi, signora Pirini, detto con tutto il rispetto, caro Parenzo, detto con il massimo rispetto, ma di che stiamo parlando? Cioè, queste bravissime persone, sicuramente brave amministratrici, eccetera, senza il signor Grillo, senza cosa sarebbero? Ma cosa c'entra? Zero! Sono zero persone. Spacca, ma cosa c'è? Io dico politicamente. Hanno la loro indipendenza, che c'entra? Sono, sarebbero zero spaccato. Dunque, se il capo ti dice la mia strategia politica è quella di non andare a mischiarmi nei talk show, tu cosa fai da bravo soldato che saresti zero senza Grillo? Il modello Chavez della Zanzara. Ma chi Chavez? Ma falla finita. Ma chi sei Chavez? Ma quale Chavez? Ma falla finita. Ma chi sei? Ma questi falla finita. Sono stati eletti e ora hanno una loro individualità. Fammi sentire, va bene, è chiaro quello che come la pensi. Mughini è numero uno. No, Mughini si deve occupare solo di Bibi. Come si chiama lì? Bibi, il cane Bibi, come si chiama? Sì, boh, non lo so, Bibi, sì, Bibi. No, però spara contro questa cosa i giovani e i vecchi, senti. No, alcuni lo fanno, alcuni sono coltissimi, altri no, stanno lì su Twitter, oppure anche peggio, a cercare immagini mignotte sul computer, oppure vanno in discoteca, oppure sono come quei ragazzi di poc'anzi che dispiace vederli, dispiace per quelli loro. Di Ballarò, di Ballarò. Io avessi, fossi padre, avessi un figlio del genere, mi butto dal quinto piano. È numero uno, passano il tempo a cercare le mignotte su internet. Mughini ad Agorà. Ancora, se sento ancora la parola generazione, sparo, ma il top è il top. Vi dirò in tutta franchezza che la prossima volta che voi usate la parola generazione, io sparo. Nel senso che è una parola che io ho molto amato per cercare di rendere il discorso letterario, eccetera, eccetera, ma so che non corrisponde a un beatissimo. Vabbè, vogliamo sentire anche un Crocetta contro Santanchè, ieri sera a servizio pubblico, che dici? Sentiamo. Mi chiami governatore ma presidente, poi ci sono altri scazzi, però quello il clou è questo. Oppure abbiamo la necessità anche di formare delle leggi, però noi non possiamo, io non mi piace essere governatore, guarda, mi sembra qualcosa di spagnolo, di borbonico, e io mi piace essere chiamato presidente della Presidente. Siamo la coppia più bella del mondo. E ci dispiace per A proposito di coppia, fra poco abbiamo un ospite molto caldo, caro Parenzo. Fra pochi, a proposito di coppia, beh, ormai è scoppiata quella tra, non è mai stata una coppia in realtà, ma insomma, Della Valle versus Marchionne. Della Valle versus anche noi a un certo punto, ma noi siamo già scoppiati, non lo sappiamo probabilmente. Della Valle, il quale è molto arrabbiato per questa storia di Pomigliano, dei licenziamenti su cui ti scaldi così tanto tu, mentre io me ne fotto poi alla fine. Cosa dice il signor Della Valle? Il signor Della Valle dice che invoca addirittura l'intervento di Napolitano e di Monti, chissà per fare cosa, cioè su relazioni industriali, licenziamenti, cassa integrazione, cose normali delle relazioni industriali, certo, un po', come dire, no, un po', cioè un po' di fermento in più, ma sono normali relazioni industriali. Lui invoca questo. Sentiamo dei passaggi Della Valle, come aveva definito Marchionne. A casa nostra purtroppo ci ritroviamo un mago Telma delle quattro ruote che fa una dichiarazione al giorno, non fa una macchina neanche se gli spari, e gli operai ci dovrebbero andare di merda. e Marchionne sul cosiddetto scarparo, così chiamato da Dago Spia. Fino a quando parla gente che fa borsa e che esprime opinioni sui volumi delle vetture, metto la rete, no? Gli dica al suo amico della Valle. No, ma non è mio amico. No, gli dica al suo amico della Valle che lui, quando investi un anno in ricerca e sviluppo e investimenti, non ci facciamo nemmeno una parte di un parafango. Si è parlato di sgravi. Smetta di rompere le scarpe. Che bello, che bello. 800 24 00 24. Monti si sente il salvatore della patria e dice che ha messo pace nella politica, perché i due partiti che prima si insultavano adesso invece vanno d'accordo, non sembra, in realtà, nella gestione del governo. È con noi Oliviero Toscani, buonasera. Buonasera, state bene tutti? Come va? Ecco, siete sempre al litigio voi due, Parenzo, per litigare? Sempre, sempre. Che c'è, Parenzo, non ti va bene, Toscani? No, volevo salutare Oliviero e niente, dargli un abbraccio fortissimo. Ma perché un abbraccio? Ma chi se ne frega? Ma perché? È creativo, e cioè, l'Italia è creativo. Sì. Ma che creativo? Vieni avanti, cretino. No, creativo. Lui è d'accordo, creativo. Sicuramente è d'accordo con me nell'attaccare a testa bassa questo italo-canadese che paga le tasse in Svizzera. Ma quando mai? Magari è dalla parte di Marchionne che fa battaglia. No, che no, non sono dalla parte, no, no. No. Mi hanno detto che ha 6 telefonini. E beh, allora ci che c'è? No, è interessante, come fa a rispondere cosa c'ha? 6 orecchie, non so. Ma anche Lotito ha 6 telefonini, forse anche di più, presidente della Lazio. Scusi, allora che c'entra che c'ha 6 telefonini? Ma non ti piace questo? No, a me non mi piace, mi piace la battuta, 6 telefonini. Ma ti piace Marchionne? Uno vero importante non è neanche uno. Sì, questo è vero. Ma non ti piace come combatte Marchionne contro i sindacati? Non si fa imporre nulla? No, ma avrebbe dovuto licenziare nel 1400. Ah, tu dici più coerente così. Esatto. Se ha le palle. È un po' mediocre, mediocre. E poi soprattutto non ha modelli, non ha automobili da vendere. Tu hai mai avuto una Fiat? Purtroppo sì. Come purtroppo? Purtroppo sì, perché no, ce l'ho sempre, una vecchia Panda. Una vecchia Panda? Ce l'ho, sì, sì. Beh, allora che vuoi? Qualche modello lo imbrocca pure la Fiat? Sì, infatti. Pochi, dici tu, eh? Come fa a sostenere un'azienda così con un modello? Vabbè, scusa, ma se uno gli dice mi devi riassumere 19 persone, l'altro risponde io 19, allora, e dentro 19, fuori 19. What's the problem? Un carogna, proprio un carogna. No, è piccolo, poca fantasia. Salverà la Fiat così. Dici, se vuole andare fino in fondo, allora licenzi tutti. Chiudo, bene, guarda, non posso, chiudo. Vabbè, ma lui dice che invece vuole investire, però gli assunti sono quelli e quelli sono. Lui investe. Beh, una grande sfida, la battaglia ogni giorno, nuove relazioni industriali, basta farsi mettere... Il problema è che le automobili non le compra più nessuno, quelle lì. Il problema è quello. Ma Grillo fa bene a zittire i suoi e dirgli di non andare ai talk show? Mi vorrei proprio parlare di questo. Oh, ecco. Oh, fantastico! Bravo, ha dimostrato che la televisione rincoglionisce tutti. Non a caso siamo un popolo di rincoglioniti. Sì. Chi l'ha fatta? Sappiamo chi l'ha fatta. Sì. E tutti gli italiani. Cioè, chi l'ha fatta? Berlusconi? Esatto, teleidiotizzati. E lui dunque. Guardate Gaspari, che tutti i giorni in televisione, guardate che faccia è venuta. Proprio somaticamente, proprio morfologicamente. Giovanardi, guardate che faccia, lo stesso Gad Lerner che non ragiona più. La televisione. Ma ci vai anche tu in televisione, Oliviero? No, poco. Ho perso un po' di quoziente di intelligenza andando in televisione. Ma questo, guarda, caro... Frecciero lo può dire, sì. Perché lui di televisione ne ha fatta tanta, sì. Quindi si sente un po' colpevole, è logico. No, però scusami tanto, Alessio, io sono anche d'accordo con te, andiamo fino in fondo. Grillo, ma sì, sono d'accordo, nel senso che lui dice, Grillo, io fino adesso sono rimasto estraneo a questo mondo, perché anche uno dei miei deve andare anche là? Anche tu da quando vai in televisione, guarda che faccia, cioè, io ho sempre avuto questa faccia almeno, tu guarda la tua. Beh, Oliviero, fa bene Grillo o no? Sì. No, io devo dire che la faccia di Cruciani non la conosco veramente. Cruciani, il giorno che ma infatti io vado poco. Perderai tutto. Dici che perdo nessuno tutto. Nessuno ti crederà più. Ma perdo tutto, dici. Quella là che va alla 7, sì. Già è stato sodomizzato. La televisione è sodomizzata. Bravo, se anch'io quando lo vedo alla 7. Sodomizza il cervello. Quando lo vedo alla 7, Parenzo, lo vedo con la faccia. Alla 7 niente, non vale. Con la faccia, 7. Con le occhiaie. Ma perché vai in televisione? Perché? Perché per i soldi, per i quattrini, il Danè. Ma i soldi. Il Danè deve campare pure lui, no? Altrimenti. Comunque mi stanno dicendo, sì, che comunque Grillo senza televisione, sì, non esisterebbe. Sì, ma la comanda lui, decide lui come qua. No, è la televisione che va a Grillo, non è Grillo che va alla televisione. Bravo, bravo. E allora? E allora, no, dunque, siccome la televisione ormai pensa che se non si passa dalla televisione non si esista, sì, no? Dunque fa bene a dire, fa bene a dire ai suoi di non andarci. È la cosa più intelligente che ho sentito negli ultimi tempi. Voterò Grillo. Sì. Anzi, faccio propaganda agli amici. Falla, falla, falla, falla. C'ho qua degli amici di fronte a me che non vogliono votare Grillo. Ma prima sì, convincili. Non hanno coraggio. Traffico, torniamo subito. Oliviero Toscani che dice Grillo fa benissimo a imporre ai suoi di non andare nei talk. La pensa come me. La Zanzara. Lo straordinario exploit del professor Paolo Becchi ieri sera alla Zanzara. Cioè, noi con la medicina attuale riusciamo a far sopravvivere anche i cadaveri, no? E Berlusconi è questo, un cadavere che cammina grazie all'uso della medicina. Sì, ma anche come essere umano, direi. Credo che non rischi, perché sarà molto difficile per lui continuare a trombare, perché insomma dopo un certo periodo non ce la fai più. Guardatelo in faccia, è appassito, ragazzi, è appassito. Che ci resto a fare insieme. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Quello di prima era un professore universitario, Parenzo, bisogna sempre ricordarlo. Il gruppo Fiat ha da prima negato, oddio, alla Fiat nei suoi stabilimenti i diritti e le prerogative previste dal titolo terzo. Non ci rompere le scatole con queste cose, dai, su. Nessuno degli iscritti alla Fiom è stato assunto ed è per questo, vabbè, che il Tribunale di Roma, terza sezione di lavoro, condanna. Toscani, qualcuno, qualcuno dice che il punto G, la battuta sul punto G, la considerazione, quello che ha detto Grillo sul punto G è una cosa maschilista, ma di che parliamo? Su, ma dai, figuriamoci, il punto G è una cosa importante. Però comunque l'esempio più lampante che la televisione fa male, guardate Sgarbi, è diventato impotente a furia di andare in televisione. Beh, no, no. E anche Berlusconi, insomma, no? Cioè li ha resi impotenti tutti e due, dici? Beh sì, ormai ragazzi. Ma no, Berlusconi non pare impotente, però. Ma no, no, io dico impotente in altri modi, politicamente. Insomma, la televisione fa malissimo. Ma non quello andare in televisione. Sgarbi sta sempre in macchina, tra l'altro, ha fatto pure un incidente per stare sempre in macchina. Muore la Resinello, muore la Pecorella, muore la gente piena di guai, ma i rompicoglioni non muoiono mai. Cioè Sgarbi, dici, vabbè, tu, adesso. No, nel senso che è andato in coma, è andato in coma in coma l'autista, invece lui si è salvato, dici, no? No, ma lui non può andare in coma, è in coma da 30 anni. È già in coma da 30 anni. Ma coma dai, televisivo, che pure... coma televisivo. Senti, ma no... l'hanno pure operato, dai, fagli gli auguri. Ma guarda che glielo mandati, non mi ha risposto sto stronzo. Guarda che tra l'altro che dopo un giorno è ricomparso subito in tutti i talk show. Televisione, è ricompa... bella scusa. Sì. Come con la scusa? Beh, una bella scusa col braccio ingessato. Con la scusa, le braccia ingessate. Come scusa? In televisione. Ha raccontato tutto dopo un secondo, già raccontava tutto quello che gli era successo, ti giuro. Un'altra scusa per andare in televisione, un altro che punto G. Io ho visto a un certo punto l'incidente, dopo un secondo c'erano dei siti che avevano già la voce di Sgarbi che raccontava l'incidente con l'autista. Vabbè, in coma. Poveretto, ma dai, come su. Un sito di strada apposta per poter ritornare in televisione e parlare. Questo è Sgarbi. No, se no dai, nessuno lo vuole più. Vedete, la televisione fa dei brutti scherzi, non andate in televisione. Mi raccomando, cominciare a guardare la televisione. No, infatti, guarda, se me lo dici tu, può darsi che resisto. Se me lo dici resisto. No, guarda, ti rovini. Senti, ma queste ragazze... La televisione va bene, la Clerici, va bene questi qua, presentano uno mattina, queste robe qua. Va bene il Papa, è perfetto in televisione. Bisogna essere un po' travestiti per essere bene in televisione. Ma come travestiti? No, vabbè, dai. Ma in senso figurato. Ma oggi e stasera non capisci nulla, Parenzo. Senti, cioè, capisco tutto. Neanche David Bowie si veste più neanche come il Papa. Cioè, neanche il cantante più eccentrico si veste come il Papa. Ah, tu dici che vestirsi come il Papa è una follia, dici? Ma neanche il più grande... Vabbè, quello è il Papa, però. È il Papa! Che cosa vuol dire? Cioè, come si dovrebbe vestire il Papa? Il Papa deve essere vestito da David Bowie nel momento più da... Ma come si deve vestire il Papa, scusa? Non so, ma non così. Ma così c'è la solita cosa. Ma puoi deciderlo tu, scusa. Ma c'è la solita. Non voglio deciderlo io, ma trovo ridicolo. Insomma, tutti vestiti da donna. Ma è da donna, c'è una tunica lunga. Il papa, sono gli abiti che si usano, cioè, voglio dire. Sì, vabbè. Sì, va bene. Comunque, io voglio capire una cosa. Queste ragazze del Movimento 5 Stelle, queste ragazze, brave donne, che elette, eccetera, che si ribellano e dicono Grillo maschilista, che vogliono secondo te? Ma senza Grillo non sarebbero nessuno. Sì. Poi dare del maschilista trovo che non è giusto, perché io conosco Grillo, non lo è assolutamente. Ma è vero che si va in televisione per contentare la mamma. Dici, però nessuno si ricorda più cosa dici in televisione, basta essere lì. Il giorno dopo dicono: ah, eri bella in televisione, hai una bella cravatta. Ma cosa ho detto? Non lo so. È tutta aria fritta. Poi è una contraddizione. È intelligentissimo. Lui non va in televisione perché la televisione va da lui. Ma è così, Parenzo, arrenditi, Parenzo, arrenditi. Ma io non è che sostengo, io dico no, 5 Stelle, non andando in televisione, fanno un gioco di comunicazione molto più forte. Piuttosto che andare là seduti, andare lì seduti e fare il teatrino, parlare ogni 10 minuti. Guardate che faccia a Gasparri, quello è il risultato di chi va in televisione. Tutta che parla, guardatelo bene negli occhi, quello che dice, e quello è il risultato del teleidiota. Scusa, Olivero, ma Crocetta presidente, un presidente omosex. Allora, che dici? Mica apre casini, no? Apre. Eh? Mica apre case di tolleranza. Beh, magari li aprisse. Magari. Non so, per dire, cosa mi interessa. Vabbè, qualcuno dice una grande novità per la Sicilia. Un presidente di sinistra, omosessuale, eccetera. No. E allora? Ha detto che rinunciava, al sesso, invece poi. Omosessuale si dice cazzi suoi, non so, io non mi interessa. Proprio l'ultima cosa che no, detto. certo. Basta. Aveva detto che rinunciava al sesso, poi invece. Solamente quelli del PD hanno sto problema qua del matrimonio omosessuale. Stupidaggini qua. Sì, altrimenti l'avrebbero già fatti, no? Da un pezzo. Appunto. Comunque, guarda che Grillo un po' la fissazione del sesso ce l'ha. Ha parlato anche di Renzi, no. dell'invidia penis, no? L'invidia penis, queste robe un qua. Po' è vero, dai. Cosa? Grillo, non so io. Comunque, votate Grillo. Vabbè, ho capito, adesso votate Grillo. Cioè, io faccio propaganda. Ho capito. Comunque, Parenzo, l'altra cosa da dire è che oggi. Parenzo, vota Grillo. Ma Parenzo. Ma guarda, fosse l'ultima cosa che faccio. Ma quella è una follia nella tua vita, Parenzo, sei sempre così serio. Ma quale? No, ma io sono in grado. Senti, ma questa alleanza tra Di Pietro e Grillo, la battezzi, la saluti in maniera positiva, la apprezzi oppure non te ne frega niente? Ma sai, quello che fa e dice Grillo non è che mi vada bene tutto, è l'uscita dall'Europa, tutte queste cazzate. No, vabbè, certo. Vabbè, non sono tutte cazzate, sono benissimo. Tanto poi non le fa. Ma allora possibile. Ma non lo so, io non posso giudicare. Io trovo che Grillo sia interessante in questo momento, molto interessante. Senti, un'ultima cosa, ma perché ti piace solo perché fa casino? Cioè, ti piace perché spariglia, fa casino, dopodiché non condividi nulla. Abbiamo bisogno. Qualcuno che fa saltare il banco. Io sono stato un grande difensore da anni di Bersani, quando lavoravo insieme a lui durante il presidente. Mi ha deluso, la più grossa delusione politica che aveva mai avuto, pur avendo un grandissimo rispetto per l'uomo. Cioè, non è paragonabile Bersani a Renzi come uomo, come capacità, come tutto, però cosa gli è successo a Bersani? Senti, ma Della Valle che ce l'ha tanto, è avvelenato con Marchionne, ha ragione lui? Ha ragione, ragionissimo. Ma dai, su. Ragionissimo, mi dispiace per te Crociani, ma ha ragione, straragione. Basta con sti agnelli, basta queste robe qua, basta. Ma. Ti abbraccio, a presto. Vado a fare il pastore. Come il pastore? No, il pastore, quello che cura le pecore. Saluta Sgarbi. No, salutatelo voi. No, saluta, dì, ti abbraccio. Mi dispiace per quello che è successo. Non lo ciao, vuoi dire. Sgarbi, ti saluto. Ciao. Giornale Radio, ciao. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Mi ha beccato, mi ha beccato. Gratta, ma peggio è. Lo scontro tra Vendola e Renzi, oltre che naturalmente che tra Bersani e Renzi, investe la questione omosessuale. Adesso vi spiego. Vendola intanto, non so come faccio a governare Firenze, magari con jet privati. quattro giorni a settimana sono in Puglia. Non so, Matteo, come faccia francamente a governare Firenze, perché mi pare che lui sette giorni a settimana voli magari in jet privati da una parte all'altra del paese. Ma non è che andare con i jet privati sia una dannazione, Allora, tutto nasce, questo nuovo scontro tra Vendola e Renzi, nasce da questa frase di Vendola. Renzi fa riferimento a Blair, che è stato un fallimento della sinistra europea, eccetera, eccetera. Lui fa riferimento a una personalità della sinistra che è Tony Blair, che oggi è davvero l'immagine della sinistra che non solo perde, ma fa perdere tutta la sinistra in tutte le parti d'Europa. Io faccio riferimento a François Hollande. A parte queste cose di cui gli elettori se ne fregano totalmente, si è molto arrabbiato un renziano come Luigi Marattin, assessore del Partito Democratico a Ferrara. Luigi Marattin è considerato uno molto vicino a Renzi, anche se lui dice adesso di non appartenere allo staff, economista molto giovane del 79, il quale ha twittato quello che fra poco vi leggerò. Ma tu ne sai qualcosa, Parenzo, oppure sei totalmente a digiuno di questa polemica? Tribunale di Roma, terza sezione del lavoro. No, no, ma rispondi, non fare il buffone, rispondi, rispondi. Condanna la Fiat al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei lavoratori. Rispondi, rispondi, rispondi, rispondi. Ne sai qualcosa di questa polemica o no? Lo so tutto, ho seguito tutto. Dimmi, ma qual è la polemica tra Marattin e... Lo trovo un chiacchiericcio che interessa. Ma no, ma la sai qual è, lo sai qual è, sì, l'oggetto? Sì, ma è una roba ininfluente rispetto alle vabbè, grandi, non sai ma... niente, dai. Allora, Marattin ha scritto questo. Niki, per usare il tuo linguaggio, ma va a elargire prosaicamente il tuo orifizio anale in maniera totale e indiscriminata. Proprio così, signori, un... esponente del Partito Democratico ha pronunciato queste parole. E poi dicono che siamo noi volgari, capito? Aspetta, fai bene a dirlo. Niki, per usare il tuo linguaggio, ma va a elargire prosaicamente il tuo orifizio anale in maniera totale e indiscriminata. Pure lo spray a disandara mi sono messo via. Poi ha chiesto scusa, naturalmente. Dopodiché, caro signor Marattin, caro signor Marattin, le dimissioni da assessore a Ferrara mi sembra che siano, no? Siano roba da fare non adesso, ieri. Ieri, come diciamo noi, ieri. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Fiat in preda alla confusione, da Lingotto una dura nota contro i 19 operai Fiom da riassumere a Pomigliano. Dopo un quarto d'ora l'autocensura. Berlusconi smentisce ancora, su Monti non faccio marcia indietro, non lo attacco perché non è un candidato al governo, tensione nel PDL sulle primarie. Lo scontro nell'Italia dei Valori, vicino alla scissione, Di Pietro va verso Grillo, Donadi attacca, tradisce la sua storia, finirà come Berlusconi. Bersani, Grillo e Di Pietro, un asse che non è utile al paese, della Fiat gesto inaccettabile, non si vede un piano, stanno solo rompendo il giocattolo. Ancora sciopero della fame per i malati di SLA, era stato promesso il ripristino dei fondi tagliati in precedenza, ma i soldi non ci sono, i malati riprendono il digiuno. Nel Lazio, per una radiografia alla ASL spendi 30 euro, nei centri privati ne chiedono 28, per un'analisi del sangue paghi 18 euro con l'impegnativa e solo 5 euro senza nulla. Testa a testa per la corsa alla Casa Bianca, Obama incassa l'appoggio del sindaco repubblicano di New York. E dall'economia buone notizie, più posti di lavoro, ma Romney attacca, io sono il vero cambiamento. Pronto? Marattin? Sì. Buonasera, Cruciani, la Zanzara, la disturbo? Parenzo, salve. No, dica pure. Come va? Non mi sto annoiando, sicuramente. Com'è? Un po' abbattuto da queste polemiche? No, assolutamente, solo dispiaciuto per un fraintendimento colossale. Beh, fraintendimento, abbiamo l'orifizio letto... anale, amico l'orifizio mio. Anale, fraintendimento. No, forse voleva dire orifizio e basta, forse. No, guardi, la storia è che io volevo stupidamente prendere in giro l'abilità oratoria del presidente Vendola, non mi sarei mai sognato di fare riferimento ai suoi preferenze sessuali, questo mi è sembrato chiaro, poi in tanti l'hanno visto diversamente. Beh, chiaro non era, scusi, vedi che anno è, ci possiamo dare del tu? Del 79, certo. Io sono del 66, che facciamo, del tuo o del lei? No, diamoci del lei. Del tu, preferisco. Allora, il tuo. Marattin, hai detto, hai scritto, Niki, per usare il tuo linguaggio, ma vai elargire prosaicamente il tuo orifizio anale in maniera totale e indiscriminata. E dopo una polemica su Tony Blair, sì. Beh, non sembrava proprio una cosa ironica, sembrava no, guarda, vai a dare via il culo. Ecco, no, ma guardi, la storia è così, nel senso, io sono stato colpito dall'affermazione su Tony Blair. Allora, il problema è che da comune cittadino, perché no, neanche per un attimo ho pensato di poter interloquire alla pari con Vendola, sì. Ho espresso la mia opinione, è chiaro, per mandarlo a quel paese, però per farlo in maniera che riuscisse anche a essere ironica sulle sue capacità, diciamo, di retorica, no? Il presidente Vendola parla sempre in modo molto forbito, molto aulico. Allora ho venuto in mente di fare quella disgraziata perifrasi che sì. Però aveva come bersaglio la sua abilità retorica, non certo le sue preferenze sessuali. No, però scusami, per criticare l'abilità retorica, il linguaggio un po' barocco che utilizza Vendola, beh, insomma, scrivere elargire il tuo orifizio anale in maniera totale e indiscriminata sembra il riferimento all'omosessualità di Vendola, è chiaro, su, dai. No, guarda, credimi, ripeto, la premessa di tutto è che io ho sbagliato e chiedo scusa, ci mancherebbe, non sto mica qua a giustificarmi, ci sì. Mancherebbe altro. Ma no, ti rimetti da assessore a Ferrara o no? Io, guarda, sono a disposizione della scelta che fa il sindaco, che fa il mio partito. Vabbè, uno può decidere anche di mettersi autonomamente, a prescindere sì, dal sindaco. Sì, può decidere, sai, io guardo quelli che su Facebook hanno fatto cose simili, c'è stato quello che ha detto che Berlusconi doveva prendere una pallottola in testa, quell'altro che ha detto che la Padania col terremoto si stava separando. Beh, non erano tutti assessori, alcuni dimessi, comunque, quello al nord, là dove era, quello che abbiamo fatto dimettere noi, Parenzo, chi è stato? Quello della Lega. Quello della... Dordolo della Lega, che era così. Ma quello no, era un comunque razzista, guarda, rispondimi a una domanda. Se noi dici stabilissimo che un omosessuale sì. Non può essere mandato a quel paese, ma non è. Aspetta un attimo, non staremo implicitamente dando una patente di diversità che invece non esiste? No, ma guarda che tu non l'hai mandato a quel paese, scusami Marattina, non l'hai semplicemente mandato a quel paese. Se tu avessi detto ma vai a cagare, per esempio, probabilmente... Non volevo fare perché mi sembrava insultante, capito? Cioè dirti, insultante vai a cagare, non vai a prenderlo, vai a offrire il tuo orifizio a destra e a manca. Guarda, ripeto, tu puoi credermi o non credermi, la buona fede puoi riconoscere. No, ma io ti dico... Ma lei è assessore a cosa? Al bilancio. Sì. Faccia due conti e capisce subito che insomma forse parola orifizio anale. No, ma io non ti sto negando. Però io l'assolvo, ego te absolvo, no, omnia tua. Fammi dire un'ultima cosa, guarda, sì. Io ho avuto la fortuna di studiare nel mondo anglosassone, sì. Da ragazzo. Nel mondo anglosassone ti insegnano subito che ci sono alcune cose che sono fuori dal tavolo, che sono il colore della pelle, il nome in cui chiami Dio e le preferenze sessuali. Quindi te lo posso giurare, io quando scrivevo quel post stavo cercando un modo simpatico per mandarlo a quel paese, ma neanche per un istante ho inteso fare un riferimento alle sue preferenze sessuali, perché per me è come dire se tu sei biondo o moro, cioè non fa differenza. No, ma questo io ci credo che tu non sei omofobo, figuriamoci, il punto non è quello, il problema non è quello che credo io, quello che tu hai pensato in quel momento, il problema ormai non è più quello, tu lo sai, il problema è che quando uno scrive una frase di questo tipo, che oggettivamente se uno non ti conoscesse magari l'interpretazione è univoca, l'interpretazione scusa. È vai a elargire il tuo orifizio anale in maniera totale e indiscriminata, cioè vai a prenderlo dietro a destra e a manca. C'è di più, se questa, ma poi ci rispondi, se questa battuta l'avesse fatta diciamo uno della Lega, l'avrebbero massacrato, sarebbe scatenato l'inferno. No, ma tranquillo che stanno massacrando anche me, però fatti fare tu una domanda, ma se io quella battuta l'avessi fatta, quell'affermazione volgare e inappropriata, per cui mi scuso, l'avessi fatta un eterosessuale, sarebbe cambiato qualcosa? Ma non l'avresti fatta forse un eterosessuale, questo è il punto. Qui sbagli, allora qui non mi credi allora. Quindi no, ma secondo me non l'avresti, no, ma non è che non ti credo, io ti credo anche, però l'associazione... Come ti chiami di nome? Giuseppe. Io sono stato mosso dall'attacco a Tony Blair, no, adesso non è che Tony Blair... Adesso non è che si può passare da Tony Blair fino all'orifizio anale così facilmente. No, quando tu vuoi mandare qualcuno a quel paese... o come dici tu, e lo cerchi di fare, indipendentemente che sia etero, trans, omosessuale, eccetera, e lo cerchi di fare in un modo simpatico, stupidamente simpatico. Ma ti ha detto... Ma non è simpatico questa cosa qua, non è una cosa simpatica. È quello che ho sbagliato, Giuseppe, mica ti sto dicendo che ho fatto bene, però un conto è dire che ho sbagliato, è stato volgare. Un conto ma vi siete sentiti con Vendola per caso, no? No, io ho cercato Vendola stamattina, non si è fatto trovare, non sono riuscito a parlare. Però ripeto, un conto è essere criticati perché si è stati volgari, e quello lo sono stato. Un conto che è stato, ma secondo te ti hanno attaccato anche perché adesso c'è Renzi, cosa? Beh, chiaro, ma guarda, io Renzi voto Renzi, ma non faccio parte dello staff di Renzi, quindi non so. Qualcuno ha detto di sì? No, no, no, assolutamente no. Io voto Renzi, sono convintamente voto Renzi, ma non faccio mica parte. Comunque guarda, cioè Renzi è stato comunque, e si è dovuto anche lui, ha dovuto dire delle cose, hai un po' danneggiato insomma la candidatura di Renzi, o no? Nel senso, io appoggio tanti leader politici di volta in volta, se loro sono resi responsabili dei miei errori. Ma tu non è che sei un signor nessuno, fai l'assessore del Partito Democratico in una città come Ferrara, cioè non è che sei l'ultimo arrivato. Cosa che probabilmente mi sono considerato troppo signor nessuno, e questa è un po' un'ironia perché mi hanno sempre accusato di essere un presuntuoso. Però ma sai, in campagna elettorale contano pure queste cose, cioè tu sei l'uomo di Renzi, uomo nel senso tra virgolette, elettore diciamo di Renzi e assessore del Partito Democratico a Ferrara, qualsiasi cosa scrivi o fai viene attribuita. Hai ragione anche su tutto, però concordi su me, con me, che un conto è essere accusati di essere stati superficiali, di essere stati volgari, e un conto è essere accusati di aver voluto far riferimento polemico alle preferenze sessuali di una persona. Sono due cose molto diverse. No, no, ma infatti no, però la politica è anche quello che sembra. La politica è anche quello che sembra. Allora, la cosa da fare, secondo me, è stata troppo quello che sembra la politica. Questo è stato uno dei, ho capito, ma se uno scrive una cosa, Parenzo, che dici? No, dico, la sentenza della zanzara è questa: dimissioni, dimissioni. Si chiama l'assessore, nome di battesimo? Luigi ego te absolvo a peccati stui, si nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Così ha deciso la zanzara, si è assolto. Aspetta, però. Però dimissioni. Però dimissioni subito. Da assessore. Atque immediato. Bello questa cosa in latino. Allora, assessore, ci dimettiamo o no? Guarda, nel senso, dai, su. Il mio sindaco mi può ritirare deleghe quando vuole, il mio partito me lo può chiedere quando vuole. Dopodiché, sai, ti ripeto. Ma perché non dici mi dimetto da assessore? È così semplice, mi dimetto, così togliamo tutto. Io non accetto che mi si dia dell'omofobo, Giuseppe, perché ho fatto un'affermazione volgare, ma l'omofobia. Ho fatto una stronzata, dimmi, ho fatto una stronzata. Ho fatto una grande stronzata, ma non sono stato una non sei omofobo. Vabbè, ciao, ti abbraccio. Ciao. Dimissioni subito, dimissioni subito. Borsa. La zanzara. Io la combatto da ore. Punge e poi fugge da me. E cerca il posto migliore per fare un grande scontro qui alla Zanzara tra due ex amici, Emilio Fede e l'avvocato Gaetano Pecorella. Beh, amici. Due ex amici, così sostiene Fede. Cosa vuoi che ti dica io? Emilio Fede, il grande direttore mai dimentico. Uso questo espediente. Mai dimentico. Aulico, bravo. Del TG4, il quale dice: tutte le mattine mi arrivava una lettera di Pecorella che mi chiedeva i quattrini eccetera, guadagna poi, gli servono soldi ironicamente, dunque insomma non paga la parcella Fede e si lamenta. Gaetano è una persona molto carina, difatti quasi ogni giorno mi scriveva sollecitandomi il pagamento, molto carinamente. Io mi svegliavo al mattino e c'era la lettera di Pecorella, se no tutte le mattine quasi. Sei proprio infame. Pecorella, è passato il tempo che Fede può permettersi di tutto. Ma poi ha detto di lei anche che ogni giorno si svegliava la mattina con una sua mail. Credo che sia passato il tempo che si può permettere qualunque cosa. Dove sei, ma dove sei? Lasciami dormire. Dove sei, ma dove sei? Fatemi risentire il professor Becchi. Mi prego, il professor Becchi. È un mito. Professore di filosofia del diritto. Voglio ricordare, cari ascoltatori della Zanzara, voi che siete in questo momento sul raccordo anulare, sulla circonvalazione, dillo tu Parenzo, dillo tu. Ma voi che siete fermi, voi che siete in macchina sul vostro raccordo anulare, alzate la radio a tutto volume, prendete il vostro adorabile bambino e legatelo con una corda molto sottile al tubo di scappamento della macchina. Premete l'acceleratore, 220 all'ora, mani fuori dal volante e via la zanzara, il professor Becchi. Cioè noi paghiamo oggi le conseguenze della faccia sua di mortadella con ce lo chiede l'Europa, sì. Ce l'ha messo in culo l'Europa, possiamo dire. Per fare un passo. Il professor Paolo. Diciamo che questo professore ha la stessa cattedra che aveva il professor Norberto Bobbio all'Università di Torino, per cui avevano dette le cose. Cioè insegna filosofia del diritto a Genova. la stessa cattedra tenuta da un uomo quale era il professor Norberto Bobbio. Quindi questo è giusto. Ma secondo te il rettore dell'università di Genova, di fronte a queste cose, cosa dovrebbe fare? Dove sei? Magnifico, perché si chiama Magnifico il rettore. Magnifico! Magnifico di Genova, magnifico rettore o reattore. Sì. Dove sei? Punto di question mark. In inglese, ma cosa dovrebbe fare Becchi a un certo punto? Becchi, professor Paolo Becchi, si presenta di fronte al rettore. Una mattina, ecco, arriva, bussa il rettore. Chi è? Sono il professor Becchi. Chi? Il professor Becchi. Si accomodi, Becchi. Venga, venga, caro Becchi. Che diceva lei del signor Prodi, ad esempio? Beh, che ce la faccia come il culo. Beh, caro professor Becchi, faccia armi e bagagli e non si presenti più all'università di Genova, amico mio. Bene, questa è la Zanzara 800 24 00 24. Ma vogliamo leggere tutta la sentenza della Sgarbi che dici in Italia? Vogliamo leggere no, la sentenza no. In Italia ci sono troppe rotatorie. Io non ce la faccio più. Perché uno Sgarbi, sentite. Ma non era malato a letto. Ma che ne so, guarda, ragione, alla fine forse ha ragione pure. No, Toscani no, è esagerato. Io Europa ho dato ai comuni, alle province italiane miliardi di euro per rotatorie. L'Italia è piena di rotatorie del cazzo che portano in Camporella. Non si in capisce cosa è vero, senso. Io pure rotatorie me lo domando ovunque. Sempre perché. Ma le rotatorie fanno diminuire gli incidenti. Ma chi è che ha detto, ma questo è vero? Ma che ne so, era ospite della Merlino, chi era? L'area che tira della Merlino. Ah, ottima. Va bene, Pino da Forlì, 800 24 00 24. Pino, vada. Ciao, Cruciani. Dica. Ciao, mi senti, ciao. Niente, ero partito. Avevo telefonato per l'intervento della Pirini, che comunque benissimo, adesso si è accodata al 5 Stelle, non chiamiamoli grillini, e va benissimo, però... Scusi Pino, vuole abbassare il volume della radio per favore? Sì, lo o chiudere alterato. Direttamente, ok, allora non ho capito, la Pirini... Va bene, così. La Pirini, no, che ha fatto i suoi interventi via quella trasmissione, tutto quello che vuoi... Allora? È giusto, non è giusto andare su, no, perché questa è una che ogni 3x2 cambia bandiera, cioè a Forlì, sì, dove si era messa in pista, sì, con destinazione Forlì e quant'altro, è stata pronti via per le elezioni, faceva quella che protestava contro tutti. Poi quando c'è stato il ballottaggio ha detto benissimo, chi di voi due mi dà una poltrona, mi dà una possibilità. Ma, scusi, ma per, non è del Movimento 5 Stelle questa Pirini? No, è diventata adesso. Prima cos'era? Forlì. Destinazione Forlì. Ma che destinazione Forlì? A me sembrava destinazione Forlì che è un movimento politico, una è lista. Una lista, una sorta di lista. Vabbè. Lei dice che non era grillina. Sì. No, è diventata dopo. Per convenienza. Come ha fatto quando c'è stato il ballottaggio. Vabbè. E poi ti rubo solo un secondo. Sì, dimmi, dai. L'assessore di Ferrara che prima sì, che detto, ha detto quella cosa tremenda su Vendola, l'orifizio avanti, ma va prosaicamente a elargire il tuo orifizio anale in maniera totale e indiscriminata. Allora guarda, io non ti dico che hai ragione dicendo che hai ragione tu, hai ragione Parenzo dicendo devi dare le dimissioni, perché io dico solo una cosa: dovrebbe dare le dimissioni solo per una cosa, per non essere coerente con quello che in realtà ha detto, perché una persona che non è coerente con quello che ha detto deve... Ah, tu dici che non doveva rimangiarsi quello che ha detto, ho capito. No, se l'ha rimangiato perché... Vabbè, se l'ha rimangiato perché no, dice, non solo dice, non è che se l'ha rimangiato, dice che non è un'offesa. Beh, insomma, adesso... No, che ha cercato un modo carino per dire, ma non è un modo carino. Ma allora, infatti secondo me è peggio, tu... le scuse sono peggio, come si dice, dice in Veneto. Allora, Parenzo, come si dice? Pino, arrivederci, grazie, ho capito. Antonio da Taranto. Ciao, buonasera. Vada. Senta, allora, intanto io sono d'accordo con quello che ha detto sull'assessore lì di Ferrara, non so di dove. Sì, del Partito Democratico, è il Partito Democratico. Sì, nei confronti di Vendola, perché è una cosa che non bisognava dire. Io sono della Puglia e credo che Vendola ha fatto qualcosa di buono qui. No, qui non c'entra niente come ha amministrato la Puglia, non c'entra nulla, perché... Ecco, poi intanto... Scusi, ecco che... Poi intanto io volevo intervenire sul discorso Grillo di Pietro. Credo allora? Che... sia un accordo che a me piace ed è giusto che lo facciano. Va bene. Anche perché sono due persone molto forti e potenti. Vabbè, molto forti e potenti. La grande analisi di Antonio da Taranto. Silvia da Milano, grazie. Buonasera. Silvia? Non c'è. Gaetano? Eccoci, Silvia, parli. Io vi sento, buonasera. Si esprima. Io volevo intervenire sul tema del tweet dell'assessore di Ferrara. Sì, vale. Volevo capire se la vostra proposta di dimissioni era una provocazione, come spero. Proposta, non è che proponiamo nulla, ma per fortuna. Lo dicevate seriamente, perché io come l'ho letta lui... Scusi un attimo, uno che scrive assessore del PD, renziano, nel pieno della battaglia delle primarie, ma lasciamo perdere questo, un tweet del genere, Niki, per usare il tuo linguaggio, ma va prosaicamente a elargire il tuo orifizio anale in maniera totale e indiscriminata. Beh, abbia pazienza, signora Silvia. Però secondo me sembra un, cioè non sembra, a me, io almeno per come l'ho letta, era un, scusatemi il termine, un vaffanculo. Ma non è solo un vaffanculo. Ma non è sì. vero, ma quando uno dice elargire il tuo orifizio anale, adesso non voglio insistere, sembra che voglio. Ma di che parliamo? Dai, su, di che parliamo? Vabbè, io sinceramente credo che, siccome ci sono persone che hanno fatto cose che io giudico molto peggio in Italia, non si sono dimesse, nessuno ha chiesto le dimissioni, volevo spezzare una lancia a favore dell'assessore. Vabbè, grazie. Giuseppe da Caltanissetta, buonasera Giuseppe. Buonasera. Vada. Io mi chiamo da Gela, dal paese di Crocetta. Da Gela, paese di Crocetta, sì, non da Caltanissetta. Va bene, Giuseppe, allora... Niente, io volevo dire solo due parole, perché dopo che si hanno fottuto un sacco di soldi, noi dobbiamo pagare le 2 euro per le primarie. Ma chi è che se l'è fottuto i soldi, scusi Giuseppe? Tutti, la Regione Lazio, Regione Sicilia, tutti i politici. Ma non è, ho capito, non è obbligata, obbligato. No, io non sono obbligata a votare, però è una cosa che mi piacerebbe fare gratuita. Ma scusi un attimo, lo sono le primarie, non è che per le elezioni le chiedono i soldi. Alle non primarie, io per le primarie, appunto per le primarie, se lei vuole andare, va, altrimenti... Se vuole andare vado, ma se io voglio andare non è per forza che devo uscire 2 euro. No, però scusi, questa mi ma sembra che veramente... Ma che di polemica è, ma si rende conto? Certo che è una bella polemica. Scusi. È una stupidaggine giornale delle 19.44 del venerdì 2 novembre. Sono iniziative di partito. Ma dove vanno questi soldi? Ma lei ce l'ha 2 euro, su, dai, non diciamo stupidaggine. Ma io ce n'ho tante di 2 euro, ma perché ecco, le devo dare allora? Dove vanno questi soldi? I soldi dei partiti dove sono? Che servono a fare le primarie? Ma questa sarà una parete del professore di Genova, lei come si chiama? Va bene Giuseppe, sì, grazie. Sì, sì. Ma lei, scusi, è Giuseppe o Giuseppina? Non ho capito bene. No, sono Giuseppe con una voce un po' bianca e ho 47 anni. No, mi scusi, era semplicemente... Comunque, no. No, magari si erano sbagliati lì al centralino. No, complimenti per la trasmissione. La voce bianca è bellissima comunque. Comprateci un telefono nuovo al vostro... Apparenza, sì. Apparenza, perché brava, è fastidio quello che bravo. C'è. Hai ragione. Arrivederci, grazie, auguri. Bravo, Andrea, grazie, da Palermo, Sicilia. Oh, buonasera a tutti. Vada. Ho aspettato 2 giorni per sentirvi, una goduria incredibile, altro che punto G. Volevo parlare di Grillo. Allora? Di Grillo e del fatto che la sua è una provocazione che non hanno colto, nel senso che non si allea con Di Pietro, cioè che significa allearsi con Di Pietro? Cioè, il Movimento Vabbè, 5 ma Stelle, è un'ipotesi, su, è un'ipotesi che si fa. Sì, ma il Movimento 5 Stelle nasce come rappresentazione delle persone sì, su vabbè, internet. Rappresentazione e delle persone su internet, sì. Contro i partiti. Contro io i partiti. Le rivolge, quindi un po' fastidio. Ma infatti forse se lo vuole mangiare, forse se lo vuole mangiare. Se lo vuole mangiare. Si vuole mangiare quello che resta dell'Italia dei Valori. Beh sì, ma diciamo è un discorso che riguarda il Quirinale. Vabbè, Andrea, non la sento più. Migliorate i telefoni vostri, migliorate anche i vostri telefoni, non solo quelli di Parenzo. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Secondo... Bravo che tu non hai fatto oggi le condoglianze alla famiglia Alemanno per la morte del suocero Pino Rauti. Ma noi non facciamo le condoglianze a nessuno. No, ma non pensavo non è che visto le tue amicizie con il mondo dell'estrema destra. Ma io ho nessuna amicizia con il mondo dell'estrema destra. La puntata al fondatore del movimento ma sociale qua è una, italiano. È una pura diffamazione. Io non ho nessuna amicizia nel mondo dell'estrema destra. Guarda, posso assicurare. Guarda comunque. Pensavo che dedicassi la puntata a Pino Rauti, viste le tue provocazioni. Ma guarda che io non ho nessuna amicizia nel mondo dell'estrema destra, ti sbagli. No, però sai, dici questi grandi uomini, fondatori di Ordine Ma io non nuovo. Ho detto nulla, figuriamoci se no, faccio l'elogio, oggi... l'elogio di Pino Rauti, una persona che è morta poi tra l'altro. Peso, no, ma infatti pensavo che tu, preso da così dal furore della polemica a tutti i costi, cioè, dedico questa puntata a Pino Rauti. Ma figuriamoci. Pensavo comunque ha ragione Freccero, ha ragione Freccero. I grillini fanno bene a non andare in Freccero TV. Ha fatto un'analisi tecnica, voi dite della comunicazione. Salsi è tanto carina, ma ha sbagliato ad andare a Ballarò. Io dico che i talk ragazzi, show sono la casta. Questi ragazzi, Carlo, caro Freccero che ci stai ascoltando, questi sì. ragazzi dimostrano indipendenza, avanti tutta contro il sovrano. Non è lui il padrone delle vostre menti. No, è lui il padrone. Non è lui è il padrone, padrone del movimento e indica la strategia. Se voi non ci state Cruciani, a casa. Così come Cruciani sarà scalzato dal suo ruolo di dittatore unico delle coscienze, operai, riprenderemo in mano questa trasmissione e dimostreremo a Radio 24 che il potere operaio ancora esiste. Grazie Fiom, avanti tutta. Che cosa sei riuscito? È con noi in diretta da Torino, da casa sì. sua, il Marchionne? Professore. No, che Marchionne, che c'entra? È uno degli altri. Bravo, questo è in Svizzera, bravo. Non è in Svizzera, è a dietro... Svizzera forse quello. In America. Perché in Svizzera? America, sta in Svizzera quello lì. Uno, un professore, caro Baretto, ho invitato un professore, che non è quello di ieri sera, il professor Becchi, è un altro professore. Perché il professore... Torino poi è culla di grandi intellettuali, quindi di... pensa dei fratelli Ross, pensa che grande che è Torino. Umberto Terracini, ad esempio, che ha firmato la Costituzione, grande comunista. Pensa a uomini come Norberto Bobbio, a intellettuali di grandissimo respiro quanto hanno dato a questo paese, questa grande. Ma volete adesso venire a dire che ci siamo ridotti a questo miserabile che sta parlando con voi? No, no, è Parenzo che è un imbecille. Professor Gianni Vattimo, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Quanto tempo? Ci ha snobbato a lungo. Perché finiva sempre in lite. Finiva sempre in bacca, dice lei, no? No, in lite. No, in lite perché Bacca. Poi, tra l'altro, il professor Vattimo... Non è il professor Bacca, no? Finisce sempre in bacca. Se non è il professor Bacca. No. Beppe Vacca è un grande professore del presidente dell'Istituto Gramsci. Scusi, credo. Professore Vattimo, io ho un sospetto. Il mio sospetto è che lei... ha un'idea di Parenzo un po' particolare, no, cioè lei pensa che sì, sotto sotto pensa che tu sei una specie di uomo del Mossad, diciamola tutta. Sì, sì, sì, sono sì. convinto, ma però questo... Come è convinto? Come è convinto? Dai ragazzi, ma secondo lei il Mossad, che è una cosa seria, fa riferimento a me, ci sarebbe tutto finito? Non lo so, però sa, ci travestono tutti. Ma io non, ad esempio, io non sono, nonostante le follie che lei sostiene su Israele e sugli islamici e sui movimenti terroristici, non gli islamici, su alcuni movimenti terroristici, io non ho mai pensato che lei, ad esempio, sia un uomo di Al-Qaeda in Italia, mai. No, perché quello sì che è un movimento serio, non prenderebbe mai me. Come serio? Come serio, scusa. Scusi, come serio? Fanno sul serio. Ah, fanno sul serio. Cioè, no, io sono un amico dell'Iran, devo dire, sono... Beh, questo purtroppo lo sappiamo. Questo lo sappiamo. Che sì, però anche che si facciano la loro bomba atomica in modo da stabilizzare un po' il Medio Oriente. Ma vada lì allora, ma perché allora continua a stare in Iran? Che lei non la fanno in Russia, lei si ricorda come dicevano dei comunisti anni fa, cavolo in Russia, vadano in Russia. Appunto, beh, vero? Vada in Iran. Tolga il lobby meraviglioso che ha. Quell'Oden splendido, verde, che ho visto una volta, meraviglioso, che altro io, quel bellissimo. Sì, è un bellissimo Loden, per giunta è di Kashmir, non lo so. Si vede. Beh, ma sa, quelli di sinistra sono sempre quelli che spendono di più, alla fine. Sì, no, io l'ho avuto in regalo, ma da un amico. Va bene, ragazzi, di che parliamo? Oltre professore... Che... Loden e Vanda in Iran a fianco del suo amico... Scusi, lei che per chi fa il tifo, per Obama o per Romney? Beh, spero che vinca Obama, però certo... Non è che poi mi entusiasmi selvaggiamente, sempre un presidente degli Stati Uniti certo. È come la grazia di Stato, cioè quasi come il Papa, quando uno diventa il Papa, anche se è un rivoluzionario, diventa reazionario. Sempre ecco. Papa è, dice lei, certo. No? Sempre Papa è. Scusi un attimo, però lei, se dovesse scegliere, adesso, diciamo, il suo modello, Stati Uniti e Iran, chi sceglie? No, sarebbe Stati Uniti per il posto dove abitare. Ah, però, ecco, capito. Vabbè, grazie. Per il sogno l'Iran, diciamo, per le passioni rivoluzionarie l'Iran. No, è uno stato perseguitato dall'imperialismo occidentale israeliano, eccetera. Vabbè, andiamo all'Italia dei valori. Pare che si sciolga. Lei interessa il fatto che si scioglie l'Italia dei valori? Di Pietro ha detto è tutto finito. Non lo so, devo dire che devo aspettare che cosa davvero si conclude, nel senso che per adesso Di Pietro non l'ha sciolta. Vabbè, però. Vabbè, che dovete fare qui? D'altra parte è vero che in Italia dei valori ci sono sempre state due anime, per così dire. E io non so se mi posso dare un pezzo dell'anima. Lei è grillina, lei è un'anima grillina. Io sono un'anima di sinistra. Come dire? E Donadi? Donadi è un uomo saggio, sembra la caricatura di Napolitano, cioè quando parla sembra Napolitano, dice lei. Dice le stesse pericolosissimo. Cose. Perché è pericolosissimo? E perché la stabilizzazione moderata? Come lei, voi credete davvero che il PD non diventi PDC, Partito Democratico Cristiano, prima o poi, ovvio. Ma adesso, professore... Andiamo, su, è tutto questo. Scusi, ma questi qua che adesso si ribellano a Di Pietro, Donati e pochi altri, devo dire, almeno apertamente, senza Di Pietro cosa sarebbero? Beh, secondo me non sarebbero granché, ma questo non vuol dire che devono essere i fedeli fino alla morte solo perché lui li ha fondati, insomma, voglio dire. Certamente senza Di Pietro non esisterebbero. Ma anche lei non esisterebbe, anche lei non sarebbe al Parlamento europeo senza Di Pietro. No, certo, infatti. Però non mi ribello, nel senso che preferisco Di Pietro a loro, ecco, questo è tutto. Scusi un attimo, ma quanto è fedele lei a Di Pietro? Beh, sì. No, perché mi è molto, gli voglio bene oltretutto, è una persona di cui mi fido profondamente, è stato attaccato indebitamente, credo, per gli impulsi vendicativi di Napolitano, naturalmente. Napolitano non lo può soffrire, obbliga persino il Bersani a cacciarlo via. Beh, però il report, la Gabanelli, non è che l'ha inviata Napolitano, eh? Ma non so, però, guardate che alla televisione italiana stanno succedendo di tutto. Prima della sera della Gabanelli sì. È stato il venerdì una lunga intervista a Stuoino di Crozza a Passera. Mettete insieme queste cose, belli miei, provate a pensarci. E adesso tutti i media attaccano Grillo e Di Pietro insieme. Vengo dal vedere. Cioè, lei dice che la Gabanelli non è casuale. Non so se è casuale, lei è una persona in gamba. No, è interessante questa cosa qui, però. Siccome Di Pietro è in disgrazia, siccome è contro Napolitano, contro. Lei dice è più facile da colpire. Vedere qualche cosa, non so come dire. No, naturalmente è solo un sospetto, cose come quello, ma sono più sicuro di Parenzo, agente del Mossad. Di qui invece, su questo qualche dubbio, ma mi sembra un sospetto legittimo. Capito. Cioè, non so, guardatevi la registrazione. Sì, sì. Ma lei sta bene, sì, professore. No, ma guarda... benissimo, non sono mica come Berlusconi che è impazzito. È impazzito Berlusconi? Ah, è impazzito? L'ho letto adesso sull'Espresso, c'è un bellissimo pezzo di... Michele Serra su come neutralizzare Berlusconi, ormai poveretto anche lui, perché alla mia età siamo coetanei, anzi io sono leggermente più vecchio di lui. No, ma non l'ho capito però, professor Vattimo, ma c'è un problema politico dentro l'Italia dei valori per questa gestione un po' padronale? Sì o no? No, credo di no. Ma guardate che questa storia dei partiti carismatici, io sono un difensore del partito carismatico, preferisco dietro a una miriade di piccoli ras di provincia che si fanno la lotta con le tessere. Cioè lei dice è favorevole al partito del padre padrone? Sono favorevole al partito di un tipo, sono favorevole al castrismo, ma certo non a Berlusconi. Cioè dipende da dove sta sto padre, di cosa è padrone, di che cosa fa. Cioè, scusi, lei è favorevole a Fidel Castro? Certo che sono Fidel Castro, si è guadagnato, ha vinto una rivoluzione cacciando questi servi degli Stati Uniti, e volete che non sia anche il padre padrone? Dunque è meglio, dunque la realtà, lei dice questo, nell'Italia dei valori nessuno sarebbe deputato, cioè, senza Di Pietro, cioè Di Pietro è tutto, questi non si Di devono... Di Pietro è tutto, no, non è che è tutto lui adesso. Sì, no, ho capito, però... L'origine è anche stata quella. Dunque è meglio il partito del padre carismatico. No, preferisco il partito carismatico che il partito fintamente democratico che deve... Quanto spenderanno questi che stanno facendo adesso la campagna per le primarie? Dove li pigliano sti soldi? Vabbè, li pigliano dal finanziamento pubblico, dai. Dove prendono i soldi? Appunto, voglio dire, è tutta una bolla questa democrazia immaginata da Bersani che per giunta vince in Sicilia, cioè... Beh, con Crocetta omosessuale lei dovrebbe essere contento da omosessuale. Ma io di Crocetta sono amico, però poveretto, un innocente strumento nelle mani di questo finta sinistra italiana. omosessuale come lei al Parlamento europeo. Vabbè, siamo, se voi leggete Strasburgo, naturalmente voi finite sempre in quelle vaccate lì perché no, non sapete vabbè. Parlare d'altro. No, però scusa, siete adesso non ne abbiamo parlato per adesso. Di politica. No, non ne abbiamo parlato, però è lo stesso Crocetta che ha messo in piazza la sua omosessualità. Scusi, io lo so, perché d'accordo, l'ha fatto, oltretutto l'ha sbattuto in faccia a quel bigotto di Casini, Casini Passera sono i nomi della nostra tradizione politica recente. Va bene, basta. Come Casini Passera? Che adesso non fatemi fare tutti, giochi di parole. Tutti i riferimenti, tutti i riferimenti. Comunque dice che rinunciava al sesso, poi ha detto che era una battuta. No, Crocetta. Appunto, era una battuta, mica scemo. Vabbè, che poi anche lui a una certa età io non capisco. Beh, certo. Lei ha rinunciato ormai definitivamente, mi sembra. No, non so, dipende. Se... Dipende, dipende. Comunque lei mi sa che lei ama il partito del capo carismatico, secondo me, eh? Dunque ama il partito. No, amo un partito che è fuori dalle da queste logiche fintamente democratiche. Vabbè, ama il partito del capo carismatico perché un po' le piace la sottomissione. Non mi piace affatto la sottomissione, mi piace la rivoluzione. Crede che Lenin non fosse un capo carismatico? Beh, ho capito, però non è la democrazia. La democrazia per lei non... No, la democrazia la discussione interna, la discussione la bocca soltanto gli agenti del Mossad. La discussione interna ai partiti non conta niente. No, la discussione interna ai partiti conta, infatti nell'Italia dei Valori c'è. Bah, però bah. Un attimo solo, abbiamo la pubblicità, poi concludiamo con Gianni Vattimo. La Zanzara. Ma io voglio farvi risentire Vittorio Sgarbi sulle rotatorie, però. Vittorio Sgarbi sulle rotatorie è una delle voci top della serata. Dopo un incidente stradale, sentite, pimpante, pimpantissimo. Io, Europa, ho dato ai comuni, alle province italiane, miliardi di euro per rotatorie. L'Italia è piena di rotatorie del cazzo che portano in camporella. Non si in effetti è vero, c'è. Io pure me lo domando sempre perché. Ma in effetti è vero cosa? Cosa? Chi era? La mia amica Merlino. Ma non è vero! Le rotatorie fanno diminuire gli incidenti stradali, ci sono statistiche. Tanto, vabbè. Tanto la Merlino ha per definizione sempre ragione. Vabbè, ma tu devi sempre lisciare il pelo ai tuoi colleghi della Sette. Ed è una bravissima giornalista. Ma che c'entra? Ma che c'entra? Che è una televisione. Comunque, signori miei, io dico una cosa. È indipendente. Ma chi se ne frega di queste stronzate che dici? Professor Batti, io dico una cosa, questi qua che si ribellano a Grillo, per esempio, Salsi, la signora Salsi. Salsi, non so come si chiama, sì, la Pirini, come si chiama? Pirini, sì, consigliere comunale a Bologna, anche lei. E dicono, no, una cosa maschilista questa del punto G, dell'orgasmo, provate orgasmo a dare in televisione, una cosa maschilista. E poi dicono anche, noi vogliamo far conoscere il programma di 5 Stelle a un grande pubblico. Ma di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Anche loro, senza Beppe Grillo, sarebbero, come sarebbero? Attimo, me lo dica lei. Questo non lo so, a dire la verità. Zero. Però io adesso, tutta questa storia su Beppe Grillo stilista, ovviamente è una battuta che io non avrei detto e non mi... Ma quale? Non mi pare buon gusto. Quello del punto G. Ma che? Ma proprio lei lo dice, Attimo. No, ma il problema vero, di nuovo, è che i media stanno giocando su questo, con queste povere innocenti, che contribuiscono a far dir male di Grillo. In realtà, cioè loro si prestano al gioco contro Grillo. Diciamo, è come se come Vendola che sta col PD perché il PD gli ha promesso che forse diventa un po' meno un po' meno omofobo. Antimonti, bene, antimonti. Guardi la sostanza. Si guardi la sostanza, è tutto qui. Loro ci prendono in giro. Cioè, la sostanza qual è? Che Grillo ha ragione a non andare nei talk show, a dire a questi di non andare nei talk show. Sì, ma insomma, è un modo. Tanto questa gli funziona, perché non andando nei talk show si è fatto una. Ma Grillo è omofobo, secondo lei? Grillo è omofobo? Non ho la minima idea, non mi sembra. No, parlando di punto G, di Invidia Penis, quando parla ma di Renzi. Che sia, ma potrebbe darsi, non lo so, però non, anche questo non mi frega niente. Voglio vedere i risultati politici, il programma e la gente che lui porta in giro. E la gente che lui porta in giro come eletti di qua e di là è più in gamba di quello ma che. È giusto sciogliere l'Italia dei Valori per confluire insieme a Grillo, che più o meno sembra quello che non vuole so, fare Di Pietro? Questo, io sono convinto che bisognerebbe confluire con Grillo, con Ferrero, con Vendola, con quel poco di sinistra che rimane per fare il movimentone antisistema, cioè anti questa roba qua, anti Monti, Napolitano, banche e compagnia. Beh, lei mette tutto insieme, Monti, Napolitano, le banche. Mi beh, sembra certo, Monti e Napolitano insieme ci stanno e non quello sì, che le banche quello sì siano per conto loro. Monti, capito Parenzo, come il professor Becchi, alla fine come il mitico professor Becchi. Io non ma so guarda, professor Becchi, dire, però, le teorie, io rimango fedele al vattimo filosofo del pensiero debole, oddio non mio, del pensiero ma minchione. Ma è passato del tempo. Più ma questo è il pensiero così. Vattimo qui tira fuori tutto il peggior complottismo che neanche un Michael Moore in sedicesimo. Io lo so cari miei, ma no cari miei, dire, cari miei nulla professore, perché cari voi, cari voi, cari miei un accidente, ma scusate Monti è delle cose che niente, Monti è diventato quello che era perché tutti hanno cominciato a parlare di lui, ma il presidente l'ha fatto senatore a vita, lo ha nominato presidente del consiglio, si è messo d'accordo con Berlusconi perché mollasse il campo, cazzo, se questo non è quello che si vede, cosa credete? Ma c'è un libero Parlamento che lo ha eletto, non ci sono complotti di porte oscure. Ha accettato di votarlo al di là di tutte le differenze ma politiche. Professore, perché, le democrazie. Professore, le democrazie occidentali non ci sono complotti ovunque, funziona così, c'è un Parlamento che lo ha eletto. No, ma ci sono complotti, si vedono i banchieri e un governo. Non quali banchieri, ma magari, magari ci fossero i banchieri. Mi dia una sua definizione di Monti, mi dia una sua definizione di Monti, professor Battimo. No, Monti è un onestissimo tecnico che fa benissimo il suo mestiere di salvare in qualche modo le banche che lo hanno messo lì. È tutto. There must be. Becchi, professor Paolo Becchi, filosofia del diritto, qui siamo ad alto livello, Quali C puntini puntini di elezioni vincerà Monti? Ma quale elezioni? Ma quale cazzo? Con quali cazzo di elezioni Monti è stato eletto? Ma quali elezioni? Ma che cazzo di elezioni? Ma dimmelo tutto. Quali elezioni? Le elezioni le faremo l'anno prossimo se ce le lasceranno fare. E sarà un successo ovviamente solo di opposizione del Movimento 5 Stelle, perché quello è l'astro nascente in Italia. Il professor Paolo Becchi, filosofia del diritto, filosofia del diritto. Sentiamolo ancora, mi fa godere, mi fa godere. Non ci sono più i soviet e non ci sono neanche più i gulag, ma per loro due sarebbero da riaprire, perché quello che ha i danni che ha fatto per l'Italia Prodi sono inenarrabili, no? Poi parla anche di Napolitano, ma non me l'avete messo qui nella scaletta. Parla anche di Napolitano. Ma cosa vuoi che faccia Napolitano? Ma non vedi che lì, che non so, è lì, deve firmare soltanto i fogli che gli passano sotto e basta. Lui è un firmacarte. Poi lo manda anche a cagare, ma questo è un altro discorso. Comunque, diciamola tutta, professor Battimo, senza Grillo i 5 Stelle diventerebbero i 5 Pippe. Ma intanto, scusate, a proposito di Pippe, non più di un mese fa era venuto fuori un sondaggio chiarissimo che sosteneva che se Di Pietro e Grillo si mettevano insieme facevano il partito di maggioranza. Beh, adesso di maggioranza, di maggioranza... Certo, era il secondo partito dopo questo finto partito che è il PD, insomma. Sì. E quindi, magari la fine è quella, ma nell'Italia dei Valori ci sarà una scissione, Ci sarà una scissione sicuro. So, ma dove vanno gli altri? Dove vanno gli altri, dice lei? Dove vanno? Torneranno nel PD in buon ordine e con la scusa che Di Pietro vuole sciogliere l'Italia dei Valori, questi si sciolgono direttamente nel PD, cioè nella nuova DC. Ci stanno bene, ci stiano, se ci vanno, non lo so. E lei che fa? Io certo sto con Di Pietro jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, bellissimo, jusqu'à la mort. Lei ama molto Di Pietro anche perché mi sa che è un bel macho Di Pietro. Lei ma lo immagina anche sessualmente Di Pietro. Non ho mai amato Di Pietro. Pietro da quel punto di vista. Qualcuno dice che però c'ha un po' il physique du rôle del macho, no? No, questo sì, ho degli amici gay che mi dicono sempre presentami di Pietro, ma naturalmente... Veramente, sta dicendo? No, sì, sì, non lo capisco, ma come... È molto amato tra i gay, vero? Ma questo non lo so, spero di sì che lo votino. No, però i suoi, amici gay, i suoi amici gay le dicono... No, conosco un paio di gay che mi dicono, ah, ma De Pietro è affascinante. E io dico, beati voi che... A lei piacciono più giovani, professore, dai su. Vabbè, ognuno ha i suoi gusti, mica è un delitto, basta che non si va basta che non si va verso la pedofilia. Per bambini, niente, non mi hanno mai interessato. No, beh, meno male, cioè, meno male, altrimenti sarebbe molto grave, no? O no? Gravissimo. No, ma l'importante è rispettare le leggi, poi ognuno faccia le cose. Ma certo. La persona più giovane con cui è stato, il professore, quanti anni ha? Ecco. Quando ero giovane io trovavo degli amici giovani. No, ma anche adesso, cioè, una persona non più... mi ricordo più, non chiede mai l'età. Non chiede mai l'età. Ma questo è grave, guarda, pure Berlusconi non chiede mai l'età, è finito come è finito. Però adesso a me non è successo. Ma alla fine su questa cosa di Ruby c'ha un po' ragione Berlusconi quando dice, insomma, questa Ruby, ma tutto è tranne, tutto sembra tranne che una minorenne, c'ha ragione o no? È vero, ma dove l'ha trovata lui? Certo, non in un asilo, l'avrà trovata, gliel'ha portata qualcuno dei suoi prossenetti. Sì, però quello sicuro, però quando lui dice tutto sembra tranne che una minorenne, un po' c'ha ragione, o no? Credo anch'io che non sembri una minorenne, non ho mai osservata bene, mi sembra una donna vissuta. Dia per una volta ragione a Berlusconi su questo, no? Ma Berlusconi ha un sacco di ragioni, c'è anche ragione a parlare male del fiscal compact europeo, cioè per quello. Ormai è diventato l'antimonti, no? L'antimonti, sì. Ma è ridicolo, un giorno dice una cosa e un giorno dice un'altra. Cioè, no, vabbè, non so cosa dica, poi spero che non si faccia più tanto sentire. Devo dire però è la forza, l'unica forza di Monti è di non essere Berlusconi. È diventato Presidente del Consiglio solo per quello. E l'ha votato persino Di Pietro la fiducia a Monti, sì, la prima volta, perché era così potente l'idea che ci togliessimo dai piedi il cavaliere. Poi basta però. Professore, l'abbraccio, a presto! State bene, un abbraccio a voi. Viva l'America! Ma che c'entra viva l'America? Viva l'America, basso l'Iran, basta con l'Iran, con questa fissazione dell'Iran. Vada ad abitare, adios. Se va a abitare là le tagliano direttamente quello che sai, glielo tagliano così. Andiamo, c'è poco da tagliare, dice lei. Vabbè, capito. Lì fanno zac, zac, pubblicità. La Zanzara. Allora, le gravissime, anche se dette un po' col sorriso, no Parenzo? Le gravissime frasi pronunciate da Oliviero Toscani contro Vittorio Sgarbi. Vogliamo farvi sentire? Che dici? Oddio, mi dispiace per Vittorio perché comunque poverino, mamma mia qua che si è rotto tutto, ma perché? Ma che ci importa a noi del fatto che ti sei rotto? C'è il demonio qui, c'è il demonio. Ah, Padre Amort, mi hai ricordato Padre Amort. No, adesso no, per tirarti su di morale lo farò risentire, 0, però intanto 6, 35, durano 70. Due minuti, ascoltate cari ascoltatori, questo è Toscani versus Sgarbi, puntata numero 2 dopo la questione quella che sapete, dell'impotenza diciamo. Stavolta sull'incidente stradale, caro Toscani. Guardate Sgarbi. È diventato impotente a furia di andare in televisione. Beh, no, e anche Berlusconi, insomma, no? Cioè li ha resi impotenti tutti e due, dici? Beh sì, ormai ragazzi. Ma no, Berlusconi non pare impotente, però. Ma no, io dico impotente in un altro modo, politicamente. Insomma, la televisione fa malissimo. Ma quello andare in televisione. Sgarbi sta sempre in macchina, tra l'altro, ha fatto pure un incidente per stare sempre in macchina. Muore la Resinello, muore la pecorella, muore la gente piena di guai, ma i rompicoglioni non muoiono mai. Cioè Sgarbi, dici? Vabbè, tu, nel senso che è andato in coma in coma l'autista, invece lui si è salvato, dici, no? No, ma lui non può andare in coma, è in coma da 30 anni. È già in coma da 30 anni. Ma poveretto, dai, che l'hanno pure... coma televisivo. Senti, ma l'hanno pure operato, dai, fagli gli auguri. Ma guarda che, guarda, fatti, glielo mandati, non mi ha risposto sto stronzo. Guarda che tra l'altro che dopo un giorno è ricomparso subito in tutti i talk show. Televisione, per la scusa. Sì. Come con la scusa? Beh, una bella scusa con le braccia ingessate. Con la scusa, le braccia ingessate. Come scusa? In televisione. Ha raccontato tutto dopo un secondo. Già raccontava tutto quello che gli era successo, ti giuro. È un'altra scusa per andare in televisione, un altro che punto G. Io ho visto a un certo punto l'incidente. Dopo un secondo c'erano dei siti che avevano già la voce di Sgarbi che raccontava l'incidente con l'autista. Vabbè, in coma. Poveretto, ma dai, come su. Un sito di strada apposta per poter ritornare in televisione e parlare. Questo è Sgarbi. No, dai, nessuno lo vuole più. Io ridevo, ridevo a crepapelle, devo dire, ridevo a crepapelle perché oggettivamente mi sembrava una cosa talmente forte, talmente che mi faceva ridere. Cioè, ho sbagliato a ridere? Tu ridevi delle stupidità, diciamo, di queste battute di Toscani, non è che ridevi dell'incidente. Però ripensandoci bene, sì, testimonierò contro di te, no, hai fatto molto male a ridere, guarda, molto male, una cosa gravissima. Domenico da Roma, buonasera. Buonasera, siete carichissimi stasera, eh? Molto carichi, sì. Beh, ha sentito bene. Dunque, a parte che Toscani scherzava sicuramente. Bah, insomma, lo chiameranno tutti Sgarbi, guardi, vedrà, andrà su tutti i network. Vabbè, però. Allora? Detto questo, lei dove vorrebbe parare tra Di Pietro e Grillo? Perché mi sembra di capire che lei non ha le idee chiare, Cruciani. Capisce? Ormai siamo quasi alla frutta, no? Quindi assolutamente Di Pietro deve fare questa mossa, perché altrimenti chiaramente Grillo... Beh, Grillo certo, non... ma ormai tra scandali, l'ascesa di Grillo e allora... il report, l'Italia dei Valori, siamo ai minimi allora... termini. L'unica mossa da fare è quella di cercare un'alleanza con Grillo, ma Grillo in realtà se lo vuole mangiare. Non è un rifugio in peccatorum. Ma non è rifugio in peccatorum, ma Grillo che gliene frega di fare l'alleanza? No, gli frega come gli fregherà anche a Vendola. Ma quando mi ascolti, prego? Ma Vendola ha già l'alleanza col Partito Democratico. Ma già che cosa? Ma che cosa? Allora lei vedrà, allora guardi, da qui a 5 mesi sì. c'è un detto. Qual è il detto? Lo vuole sentire? Dica. Glielo dico in maniera, diciamo, come si dice? Certo. Allora, mandette la cannela, che la processione è lunga, significa mantieniti la candela, che la processione è lunga, no? Cioè, allora, ancora c'è molta strada da fare, dice lei. Guardi cosa? Guardi che ci sarà una grandissima coalizione, sì. Io lo dico. Cioè, lei dice Grillo, Vendola, allora, Di Pietro, i comunisti e i verdi. Ma stia tranquillo che sarà così e vedrà. Vabbè, che Grillo chiederà aiuto. Grillo sarà quello che poi alla fine chiederà aiuto a questa gente. Non allora, credo, parli, Domenico, assiste, grazie, no, ho capito la sua previsione, vedremo naturalmente se si avvererà. Traffico, torniamo subito, Gianni da Sondrio, Emanuele da Roma, Gaetano da Napoli, Alfredo da Como e ancora altri ospiti, mica finiamo qui Parenzo, ancora mancano 3/4 d'ora, siamo vivi, lottiamo. Ma io tra un po' ti saluto. Ma chi se ne frega? Io ti saluto. Ma chi saluti? La Zanzara. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana yo soy stanco, como una muchachita, baila col ritmo bueno, non le importa mucho. Gianni da Sondrio interviene alla Zanzara alle 20:19. Gianni. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Vada. Allora, innanzitutto vorrei precisare una cosa. Mi sembra che siamo tutti concordi che la TV, soprattutto quella di oggi, è droga. È come la droga. Ma chi l'ha detto? Ammaglia. Ma chi lo sostiene? Lo sostengo io e credo che valga per tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle. Lei è un attivista del 5 Stelle? Ma mi faccia finire, Cruciani, un attimo. È un attivista? No, amico, l'ho detto, sei un criminale. Comunque sia, non siamo dei drogati. E Grillo, che ne ha fatta tanto di televisione, lo sa, ed è per quello che vuole tenersi a distanza. Vabbè, allora... Un'altra cosa, Radio TG24 ha detto Radio 24, non Radio TG 24, Radio 24. Sì, Radio 24, è un po' diverso. Radio 24, pardon. Non è il TG, il giornale radio, sono due. Lei sa che esistono due mezzi di informazione diversi, cioè due. Una cosa è la radio, una cosa è la televisione, no? Esattamente. No, esattamente. No, perché insomma lei sarà pure attivista del 5 Stelle, però e dunque se ne fotte. Usiamo dei mezzi i termini corretti. Se ne fotte della comunicazione, però la radio e la televisione, almeno questo, no? La radio, ecco, ha dato un'informazione secondo me non veritiera, che è proprio quella che Grillo vuole candidarsi come premier. Grillo è da quando? Io non lo so, non ho ascoltato il giornale radio, quale, 19, dice? Sì, quello delle 19, esatto. Sì. Non lo so, non l'ho ascoltato. Di Pietro, Presidente della Repubblica, Grillo premier. Non è assolutamente io non so in che modo ribadito. L'abbiano detto, io non so come l'abbiano detto, in che contesto. Vabbè, comunque. E niente, semplicemente comunque la TV a noi non appartiene, per il semplice motivo che appena una telecamera si inquadra è già deleterio. Perché comunque sia prendono vabbè allora però Gianni qui non è che possiamo fare il comizio, qual è il punto? Il punto è, vorrei precisare a tutti, visto che sta tutta la serata il dibattito verte sulla TV il Movimento 5 Stelle non vuole andare in TV, il Movimento 5 Stelle non vuole andare in TV, punto e basta, che poi ci vadano per libero arbitrio alcuni dei nostri attivisti, noi mi reputo di dire che siamo contrari assolutamente a questo atto di presentarsi davanti alle telecamere. Vabbè, ha fatto il comizietto. Remo da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Complimenti per la trasmissione, io telefonavo per un'altra cosa. Come mai si permette di governare la Sicilia e voi non date importanza al fattore che non ha votato meno del 50%? Ma caro Remo, ma che rinunciare? La democrazia è fatta anche così. Anche chi non vota sbaglia. E comunque chi non vota accetta quello che è il risultato delle urne. Però è sbagliato, perché a un certo punto, con quello che succede in Sicilia, con tutti quegli ammanchi, questi partiti come fanno ad avere il coraggio di governare? Dopo la gente non va più a votare e andrà meno gente a votare. Vabbè Remo, io non la penso così. Grazie, intanto facciamo risentire Sgarbi quando è andato in ospedale. Sgarbi quando è andato in ospedale, c'erano tutti i letti pieni nell'ospedale di Frosinone, sentiamo. Beh, ottimo ospedale, dice, ma però ci mancano i letti. Allora io vedo questi qua che dormivano tranquilli, dico, ma tu che cos'hai? Dice, ma io ho mangiato un po' di cioccolata, ma io ho un po' di mal di testa. Cioè erano contenti di stare lì, mentre io non vedevo l'ora di andarmene, appena mi hanno detto, meglio che rimanga, ma se vuole può anche andarsene, non possiamo trattenerla. Questi qui erano contenti, cioè avevano un cazzo da fare, stavano... Professore, sempre in top, Alfredo da Como, buonasera. Aspetta che qua c'è un problema col tacco. Allora, posso lanciare una piccola bomba? Mi faccia togliere questo sasso dalla scarpa. Vada. Allora, innanzitutto Parenzo deve stare tranquillo perché non è del Mossad. Dobbiamo aspettare una lancia a favore di Parenzo. Vabbè, Parenzo questo lo sapevamo anche prima del suo intervento, Alfredo. No, ma lei, spiego perché. Lei non è un'aquila. Eventualmente monitorato dal Mossad, visto che lui si definisce comunista radicale su Facebook. Ciò vuol dire, implica che i comunisti radicali danno la mano ai nazisti di Hamas che sono contro Israele. Quindi questo era giusto per creare una chiarificazione. Punto secondo. Ma quale chiarificazione? Poi, è in preda a uno sbando totale. No, lasciamo un Parenzo, ci conosciamo, stia tranquillo. Vabbè, allora... Ci conosciamo manco per altra niente. Altra cosa veloce, smettiamo di usare Grillo, di parlare di Grillo, perché Grillo è un pupazzo in mano di Casalecchio, parliamo di Casalecchio. Terzo punto, mi state facendo diventare omofobo. Perché? Ma basta questa storia di gay, sembra che essere etero è quasi un peccato. Chi è gay, cioè chi non è normale... geneticamente normale, va in ospedale, si fa un bel esame e se non ha 46 cromosomi XX o XY può dirsi gay. Tutti gli altri non sono gay che ce le vogliono far passare, semplicemente dovrebbero fare 6 anni di psicanalisi e capire perché sono diventati così, per cause familiari. Ma Parenzo, lo chiami tu? Ma cosa vuoi? Guarda che se lo sentono... ma si rifiutano di intervenire se sentono la registrazione. Ma smettiamola, su, cioè non ho capito, secondo lei no, mi spieghi, non aggravare. Secondo lei gli omosessuali, secondo me gli omosessuali, sì, sono semplicemente persone che hanno delle disfunzioni, sì, psicologiche, nel senso che, per l'amor del cielo, intelligentissimi, sì, culturalmente tanto, certo, di cappello, certo, ottime persone, certo, mi piacciono tutti, intelligenti, e sono persone spesso molto molto molto tutti molto intelligenti, piacevoli, certo. Però da dove chiama questo signore? Però non si può, non si può far passare il messaggio che l'omosessuale poverino è quello discriminato e noi etero, scusi, siamo diventati una manica. Come si chiama? Come si chiama l'ospedale di Como, il reparto lungo degenze? Come si chiama l'ospedale di Como? Non lo so, guardi, sfogli l'agenda di Padova, Parenzo, che lei dovrebbe conoscerla bene. No, che Padova, no, che c'entra con Como? Stiamo parlando di Como, niente, perché adesso arrivano dei signori, magari... del reparto lungo degenze, però. Sì, vogliamo sapere... Ma, signori, semplicemente dobbiamo essere un pochino più coerenti. Sì, voi avete fatto stasera un casino della Madonna... No, non abbiamo fatto nessun casino. Soltanto perché uno ha avuto la simpatia... di dire vaffanculo in modo molto forbito. No, non ha detto vaffanculo, quando... signor Maratin, ha detto, chiedendo anche scusa, vai a elargire il tuo orifizio anale in maniera totale e indiscriminata a Vendola, un assessore del Partito Democratico. Ma è bellissimo questo, ma è bellissimo, è sempre meglio che certi assessori del PD, sì, della regione Lombardia, che nonostante che hanno rubato una barca di soldi, sono ancora lì a prenderli, lo stai a prenderlo. Ma questo che c'entra? Scusi. Ho preso ancora un marrazzo che ha speso 10 milioni del Comune di Roma per andare a prenderlo nel coso, come ha spiegato lei, che mi è molto più bello, sì, che dire prenderlo nel culo. Sì. A spese del Comune, e addirittura avendo al massimo della ragione. Avendo addirittura 3 omicidi sulla coscienza, sì, che se al posto di marrazzo c'era Berlusconi, era già in Siberia in una cella. Che c'entrano gli omicidi? Ma lei deve rimanere a Villa Letizia per un mese a farsi degli accertamenti approfonditi a Villa Letizia. No, guardi, a me basterebbe venire a braccetto con lei, Parenzo, per riuscire a capire che tipo è lei. Scusi, ma Alfredo, non venire a braccetto con nessuno. Ma non ho capito, ma gli omosessuali secondo lei, non ho capito che cosa sono secondo lei gli omosessuali, malati? Non sono malati, sono semplicemente persone che possono guarire, insomma. No, certo che possono guarire, basta che vanno da un buon psicanalista, non psicologo, certo, un psichiatra, psicanalista, e vadano a fondo della causa del perché sono diventati così. Perché magari... La mamma troppo soffocante, sì, o il papà troppo violento, perché se fossero omosessuali genetici, sì, basta andare in ospedale a fare un piccolo esamino del sangue. E poi che succede? E dopodiché scoprono che hanno 46 cromosomi e che fanno? 46 cromosomi X. Bene, sono normali, sono uomini e donne. Se poi hanno gusti sessuali diversi, dovrebbero andare in psicanalisi, sì, e capire il perché sono arrivati a questo punto. La famiglia. Ma di se uno non ci vuole andare e gli piace così, qual è il problema? Nessun problema, a patto che però non obblighino a me a vivere in modo... Ghettizzato soltanto perché non gli si può neanche dire vaffanculo perché ti denunciano perché sei omofobo. Questa, scusi, è la storia che deve finire. Vogliono essere normali? Già questo vuol dire che inconsciamente si sentono normali. Comunque, vogliono essere normali? Benissimo, che allora accettino il vaffanculo. Io uso, sì, questo termine giusto per dirne uno. Sì, ho capito. Come non sono arrivati ancora. Io da etero, non è arrivati. Che se un omosessuale mi dice a me vaffanculo, io lo denuncio perché... Adesso lei si metta tranquillo in poltrona, tiri sul plaid, si faccia magari qualcosa di caldo, noi arriviamo con dei camici bianchi, siamo di Villa Letizia, sta un mesetto con noi, facciamo tutti gli esami del caso e poi torna alle sue occupazioni, va bene? Grazie, arriviamo. Lei ha una coerenza, Parenzo, che è ineccepibile, talmente ineccepibile che di Shabbat lei si chiude al cesso in sinagoga per parlare con il suo amico perché non si potrebbe. Questa è la sua coerenza. Il suo rabbino lo sa che lei è un estremista di sinistra che dà la mano a Hamas, agli estremisti di Hamas, perché la sinistra, per l'amor del cielo, Baffetto lì, com'è che si chiama? La Zanzara. Le zanzare di casa mia me quando il giorno scivola via. Si svegliano per me quando tutto sembra poesia. La cruda verità, le zanzare di Fabrizio da Belluno, buonasera. Caro Fabrizio, un attimo solo, fermi tutti. Parenzo, dove sei? No, dico, la gente è incredibile. Ero sul taxi, stavo scendendo perché sto andando a una roba e dico, faccio un attimo un bancomat così la pago. Si forma una piccolissima coda di 32 macchine, iniziano tutti a suonare e a insultarmi perché ho detto di aspettare un attimo. Allora, siccome continuavano a suonare, ho detto vabbè, adesso e mi sono allora messo lì e ho aspettato, ho detto perché suoni? Oh, aggredino, spostate! Dico, ma stai calmo, ma i tempi, bisogna vivere più slow, non sempre fast. C'era questa coda di 32 macchie, tutti, oh, imbecille, come di tuoi, non mi aspettavo. Qual è di una maleducazione? Hanno ragione però, scusa, cosa... Cioè, se il taxi è messo male... Allora, dovevo fare un bancomat. Il taxi non riusciva a parcheggiarsi. Vabbè, a parcheggiarsi, non ci interessa. E si era fermata una piccola... Ma è normale, quelli si arrabbiano perché il taxi non faceva... Non li faceva... imbecille, mica a casa tua. Allora, la signora Pirini, Grillina, pensa di essere una grande statista. Senti la signora Pirini. Se mi guardi, ti giuro, mi confondi, ti sento respirare, chiudo gli occhi, mi illudo di volare. Il problema però è anche che se non impariamo a misurarci comunque con queste modalità, poi rimaniamo tagliati fuori da una fetta grossa della popolazione italiana che merita di essere informata su quello che sta succedendo. Ma anche nel Movimento 5 Stelle. Ma come sembra poesia? La cruda verità, forse un giorno ti potrò sfiorare. Bah. Senza Grillo queste persone sono zero. Se vogliono possono accomodarsi fuori dal Movimento 5 Stelle e vediamo dove vanno. Secondo me non li vuota nemmeno la zia, il nipote, i parenti più prossimi, insomma. La strategia è quella, non andate ai talk show se ci state bene, ma è talmente semplice come discorso che persino banale, ripeterlo, persino non c'entra niente la democrazia, il punto G, il maschilismo, queste buffonate qui, nulla. La Polverini forse si ricandida in Parlamento, cioè si candida in realtà. Polverini, mia candidatura nazionale, ma con chi? Che ne so, con la destra. Sicuramente non ho intenzione di disimpegnarmi dalla politica, vedremo se ci sono le condizioni per una candidatura nazionale. Guardi, le primarie del PDL non mi interessano direttamente, mi interessa capire i candidati sulla base di che cosa ci chiedono di impegnarci. Il mio sorriso, mi adorano perché... La Meloni va oltre, dice non candidare anche gli indagati, non solo i condannati. Beh, insomma... Forse un giorno... Onorevole Meloni, servizio pubblico, lei che è per il ricambio, per le liste pulite, è una richiesta che viene dai giovani del PDL. Nella mia idea, io sarei perfettamente d'accordo a dire, gli indagati anche, quindi non solo i condannati, io sono assolutamente d'accordo, non vengano ricandidati, punto. Mughini e i giovani, siamo al top. No, aspetta, che la cosa bella... Sì. La cosa bella, gli amici, i colleghi di servizio pubblico, quando fanno le interviste, non so, vanno da Verdini e fanno: Verdini, scusi, servizio pubblico, lei è un ladro? Ma dice, non è la domanda, scusa, ho capito. No, alcuni lo fanno, alcuni sono coltissimi, altri no, stanno lì su Twitter, oppure anche peggio, a cercare immagini mignotte sul computer, oppure vanno in discoteca, oppure sono come quei ragazzi di poc'anzi che dispiace vederli. Mi dispiace per quelli loro. Di Ballarò, di Ballarò. Io avessi, fossi padre, avessi un figlio e mi butto dal quinto piano. La Salsi, tra l'altro, consigliere comunale a Bologna, la Salsi, quella che è andata a Ballarò, no? Ha detto che praticamente la battuta di Grillo e comunque l'atteggiamento di Grillo è simile a quello del Cavaliere, berlusconismo. Ha ragione. Sì, ma non è che ci voleva adesso questa cosa per scoprire che ci sono dei tratti comuni, cioè. Cara Salsi, sveglia! Però è brava perché tiene alta. Emanuela da Roma, ma la testa di chi? Ma la testa di chi? Non, ma chi la conosce? Chi la conosce senza Beppe Grillo? Chi la conosce? Dove va? Emanuela. Tu dimentichi. Salve. Che le persone sono. Vada. Guardi, io le volevo dire che secondo me Marattina ha soltanto l'infelice scelta di aver usato il termine anale. che evidentemente richiama nella gente troppo il sesso anale. Sì, ma perché andiamo lì a fare i distinguo, eccetera? Qui c'è un tweet mandato da un assessore del Partito Democratico, giustamente ha detto Parenzo prima in un attimo di lucidità, che se l'avesse mandato questo tweet un esponente della destra, un esponente della Lega, eccetera, se lo sarebbero mangiato vivo e appeso forse per le palle. Invece lo scrive un esponente del Partito Democratico, un signore anche renziano, e lo allistiamo a fare i distinguo, no, volevo fare. Questo signore ha scritto: Nicky, per usare il tuo linguaggio, ma va prosaicamente a elargire il tuo orifizio anale in maniera totale e indiscriminata. Ora, lui ha cercato di spiegare che non era un riferimento all'omosessualità, eccetera, si scusa. Allora, se non c'era un riferimento, che cosa si scusa a fare? Cioè, le cose sono abbastanza chiare. C'è un riferimento chiaro al fatto che vendola è omosessuale. Cioè, altrimenti non l'avrebbe detto nello stesso modo, no? Avrebbe detto vai a quel paese, va o bene. No? Emanuela? Sì? Che dice lei? No, non era offensivo secondo lei? Vabbè. No, secondo me non era offensivo e penso che se l'avesse detto qualcuno di destra lei sarebbe stato d'accordo con me e le altre persone che lo pensano, ma perché purtroppo si vuole sempre usare questa ironia che deve far ridere su Twitter per forza e quello è stato l'errore principale. Vabbè, non ci sono scuse per cose di questo tipo. Anyway, Claudio Velardi, ex... Spin Doctor di D'Alema, ora imprenditore, come sapete, dice: Blair, figura fallimentare che ha sempre perso e fatto perdere. Per questa bella cazzata, Vendola merita un bel vaffanculo. Bravo Marattino. Ma Marattino non l'ha mandato a fanculo a Vendola, ha detto delle cose più pesanti. Questa è la differenza. Abbiamo con noi un altro ospite che deve attendere un secondo, però, perché voglio sentire Diego da Udine. Buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo... Ma tu sei Volpe Pasini? Sì, sono Volpe Pasini. Oddio, Parenzo, Volpe... Il mitico Volpe, che c'è? Il Volpe Pasini? No, guarda, ho sentito Toscani e devo dire la verità che è vergognoso, non è tollerabile, perché l'altra notte c'è stato un incidente gravissimo causato dalla necessità dell'autista di schivare un qualcosa che era in mezzo all'autostrada e questo ragazzo è ancora in coma, per fortuna leggermente migliorato, è stato un incidente pazzesco, Vittorio è uscito con un braccio rotto, sì, tre ore, sì, di intervento, questo lo sappiamo, è miracolato, sì. Non si può assolutamente scherzare. Toscani, se ce l'ha con Vittorio, lo sfidi a duello, si sfidino a sberle, ma non può permettersi di scherzare, di giocare, di ironizzare, di fare il profeta, di fare il fesso, mentre c'è un ragazzo tra la vita e la morte di 30 anni che faceva il suo lavoro di autista, come tanti altri, ed è andato fuori strada e sta rischiando di morire. Lo trovo veramente, questo qui che è abituato a fare soldi con gli scandali, è bene che la soldi con gli scandali la... quali, scusa? Ma tutte le sue pubblicità del cacchio, bianchi e neri, cavalli e asini, donne sopra i cavalli o sotto i cavalli, insomma ha fatto i quattrini con lo scandalo e si crede di essere un profeta, in realtà è esattamente nulla perché non rappresenta assolutamente niente, nessuno, era un buon fotografo, adesso è un pallone gonfiato che si riempie la bocca e usa sgarbi per dire quattro cose e andare sui giornali, perché è lui che cerca spazio sui giornali, non Vittorio, che ha sempre nella sua comunque straordinaria follia una grandissima qualità di essere il più grande critico d'arte che esista in Italia, non solo in Italia, e questo non glielo toglie nessuno, ma c'è stato un incidente pazzesco e questo Toscani, vabbè, come cavolo si chiama, non si può permettere, capisci? Vabbè, ho capito, tu hai ridacchiato perché ti ha trascinato un po', io ho ridacchiato, mi dispiace, no, perché francamente andava zittito subito, ma che andava zittito subito, le cose vanno fatte sentire, anche le follie vanno fatte sentire, ma c'è un ragazzo che è comunque in coma e che speriamo si salvi. Quando io sono arrivato in ospedale alle 2:30 di mattina, sì, chiamato dal comandante dei carabinieri di Frosinone, ho capito, ma lui si riferiva a Sgarbi, lui. No, si riferiva che muoiono quelli, poi l'incidente l'incidente finto per andare sui giornali, per andare in TV. Vabbè, ma quella è una follia di... No, è una follia, è un deficiente, un idiota che va trattato da cretino, qual è, insomma, un anziano che deve andare all'ospizio, magari va dall'estero a fare fotografie che Raibi e si trova bene, così parla con qualcuno lì. Ma non se lo può permettere, nessuno si può permettere. Fermo lì, Diego. È con noi Giulietto Chiesa, buonasera. Buonasera. Come sta? Non c'è male, mi sento male, però mi sento un po' lontano, se si può alzare la voce sarebbe meglio. Adesso alziamo tutto. Mi sente meglio? No, uguale, identico, identico. Adesso... Vabbè, adesso sì, comunque sì, mi sento. Cerchiamo di fare il possibile. Senta Chiesa, ma tutto quello che è successo in queste ultime ore intorno a Di Pietro, no? Cioè la vicenda delle case, la vicenda del finanziamento, insomma report alla fine, con la figuraccia, almeno così tutti l'hanno interpretata, anche se oggi Di Pietro dice tutte falsità quelle di report, tiro fuori le prove. Lei che ha avuto a che fare da questo punto di vista per quello che riguarda i soldi con Di Pietro anni fa, come l'ha vista? Ah, l'ho vista più o meno come tutti, l'impressione è stata, mi pare, deleteria. Quando ho finito la trasmissione ho pensato che aveva fatto una figuraccia, si è difeso malissimo, che devo dire? No, al di là del fatto che si è difeso malissimo, lei che ricordo ha di per l'ultima volta che vi siete sentiti, quando è stato? Molti tempi, non mi ricordo più esattamente che anno, forse 2005-2006, abbiamo avuto un solo colloquio molto sgradevole. Dove ci può ricordare questo colloquio che riguardava proprio i danè, i soldi, il denaro? No, guardate, non mettiamola così, io ero un deputato eletto regolarmente al Parlamento Europeo e credevo di avere diritto, non per me, ma per il gruppo che rappresentavo, il gruppo del cantiere, cioè sì. La lista si chiamava Di Pietro, Occhetto, Società Civile, c'erano cioè sì. Tre componenti. Io ero stato chiamato in rappresentanza di quella che si pensava fosse la società civile, in parte lo era. Sono arrivato al Parlamento con sì, un po' di fortuna, sì. Grazie, devo dire, a Occhetto che è stato... Ma anche grazie a Di Pietro però, eh? Sì, no, cioè, sicuramente grazie a Di Pietro abbiamo fatto un'alleanza, abbiamo fatto una lista in comune, però poi voglio dire grazie a Di Pietro, grazie a Occhetto in particolare, perché fu lui che sì, si ritirò sì. Per farmi spazio, quindi io devo dire come stanno le cose. Io ero finito terzo e sono arrivato in Parlamento perché Occhetto si è ritirato. A un certo punto arrivò la questione dei denari, perché? C'era un contributo pubblico alla lista che era grosso modo di 2 milioni e mezzo di euro. Sì, voi avete rotto politicamente a un certo punto? No, no, io, lui che ha rotto, Di Pietro che ha rotto con noi, perché quando io a nome di tutti gli altri sono andato a chiedergli quale era secondo lui testualmente la quota che noi avremmo potuto avere per sviluppare la nostra attività politica, lui mi disse che non avevamo diritto a nessuna quota. E vi fece vi ricordò quello che avete sottoscritto in un contratto, no? Quello che avevate sottoscritto. Esattamente, tutti noi avevamo sottoscritto un contratto al momento dell'accettazione della candidatura, ma siccome nessuno di noi, perlomeno molti di noi, non avevano esperienza, io non avevo nessuna esperienza, non mi peritai di andare a leggermi tutto il testo che avevo firmato. Qui va fregato, in pratica vi fregò. Insomma, io questa frase non la uso più perché dopo averla usata una volta Di Pietro mi ha fatto causa per 250.000 euro di... Chi l'ha vinta quella causa? L'ho vinta io, l'ho vinta io in prima. Beh, allora si può usare, Vabbè, ma io preferisco, come ho scritto sul Male questa mattina, non so se l'ha vista, ho detto io non ho un ufficio legale a tempo pieno che mi difende, per cui ogni volta che si apre un processo io mi devo pagare l'avvocato, questo è il problema. Cioè, ha ancora paura che Di Pietro le faccia causa, dice Giulietto. Non lo so, lui ce l'ha avuto in questi anni un ufficio legale che lavorava per lui, non so se lo pagava o come lo pagava. Io ho dovuto pagare un po' di spese perché gli avvocati... Parenzo, che vuoi dire, Parenzo? No, dico a Giulietto Chiesa, che saluto e ricordo con tutta la polemica, certo, ciao, se lui firmò... Ciao Giulietto, se tu hai firmato all'accettazione della candidatura quella roba lì, in punta di diritto c'ha ragione assolutamente lui. Ma oggi il problema è salvare Di Pietro, perché Di Pietro è stato ucciso dai suoi sostenitori, dai suoi stessi dirigenti. Questo è il punto. Perché? Perché hanno tollerato tutto, dici? Perché Donati oggi che ha ucciso formalmente Di Pietro... Ma chi ha ucciso Di Pietro? Non ha ucciso nessuno. Sì. Ma Di Pietro cadavere, dice che vuole sciogliere l'Italia dei Valori, dai, su. No, lo paragona a Berlusconi. Dov'era il signor Donati quando veniva candidato il figlio di Di Pietro? Perché forse il signor Donati non sapeva che la cassa del partito in Lombardia era gestita dalla prima moglie di Di Pietro. Cioè, queste persone che fino a ieri hanno condiviso tutte le scelte di Tonino... Adesso si ribellano, dice. Adesso che saltano e danzano sul cadavere di quest'uomo, fanno vergogna. Vabbè. La zanzara. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Why don't you go? Allora, oggi Massimo Donati, capogruppo dell'Italia dei Valori, o di quello che resta dell'Italia dei Valori, dice: Grillo presidente del Consiglio e Di Pietro al Quirinale, un'Italia del genere sarebbe come il Messico di Pancho Villa e Zapata. Di Pietro ha scritto il necrologio troppo presto. Insomma, è guerra aperta. Beh, insomma, c'era da aspettarselo prima o poi, eh? C'era da aspettarselo. Chiesa, insomma, il suo giudizio su... Sono come quelle persone che dopo l'8 settembre del 43 decisero di fare delle scelte diverse. E sì, ti devo salutare perché devo andare a una cena importante. No, ma che salutare che cosa? Ma stai fermo, mancano tre minuti. Chiesa, ho una cena importante. Ma chi se ne frega? Le tue becerate... Chiesa, qual è il giudizio finale che le dà su Grillo, dalla sua esperienza? Sì, su Grillo. Su Grillo o su Di Pietro? Su Di Pietro, su Di Pietro. Su Di Pietro. Su Di Pietro io devo dire solo che tra lui e il Partito Democratico c'è un abisso a vantaggio di Di Pietro, perché è l'unico che ha fatto un po' di opposizione in questi anni al regime che si era creato. È quello che dice Grillo, è quello che dice Grillo. È quello che dice Grillo, su questo ha perfettamente ragione, che devo dire. Lei è molto grillino, Sì, ho fatto un appello al voto per il Movimento 5 Stelle prima delle elezioni, quindi ribadisco che sono convinto che bisogna dare una spallata a questo sistema politico. Magari si vuole tornare in Parlamento pure lei con Grillo, no? No, io sono troppo vecchio per fare questa cosa qua, c'ho già 72 anni. Io mazza, mi quasi come Berlusconi. Di organizzare un movimento culturale che si chiama Alternativa e che farà il possibile per dare una spallata con i suoi limiti a questo sistema politico. Punto e basta. Di Pietro dice meglio Di Pietro di altri, però lei l'ha definito un pezzo della casta per questa storia dei soldi, dei rimborsi elettorali. In effetti se si trova in questa situazione vuol dire che anche lui qualche piede nel posto sbagliato l'ha messo. Ormai io Grillo se lo vuole mangiare. Ho scritto sul male proprio, un po' per ceglia, un po' per non morire, perché mi viene anche un po' di tristezza. Ho scritto che i dossier sono sempre lì, ce li hanno tutti. Cioè, che c'entra i dossier? I dossier rimangono nei cassetti fino a che uno non dà fastidio. Poi quando uno comincia a dare fastidio i dossier escono. E quindi è quello che è successo decine di volte. Cioè, killeraggio politico. Lontani perché, dalla casta, perché molto lontani dalla casta, così non si corrono rischi. Per Di Pietro, infatti, questa sera dice contro di me in atto un killeraggio politico. Anche questo è vero, qualcuno non aspettava altro. Poi cioè, Report dice, Report fa parte di questo disegno? No, Report è uno dei pochi luoghi seri che sono rimasti. Però perché se la pigliano con Di Pietro proprio adesso? Alcune cose erano chiare sin da prima. Sì, anche è vero, Report è vero, sì, alcune cose erano chiare fin da prima. Lei lo sa bene, cioè non è che hanno tirato fuori cose degli ultimi mesi, è vero che c'è stata la questione di Maruccio, dell'Italia dei Valori nel Lazio. Lasciamo stare, io non voglio difendere la Gavanelli, che è una persona seria, dico. La Gavanelli ogni domenica ha sempre detto delle cose importanti. D'accordo, però è un caso che in questo caso specifico è accaduto così, però non credo che la Gavanelli possa essere accusata di fare parte di questa operazione. Dopo naturalmente si scatenano tutti e chi ha commesso l'errore di aprire, come dire, di scoprire il fianco viene colpito. In questo caso Di Pietro ha commesso una serie di errori e viene colpito. Grazie a Giulietto Chiesa. Allora Diego Volpe Pasini, ancora Diego Volpe Pasini, ecco. Arrabbiato con Toscani, arrabbiato. No, non sono arrabbiato con Toscani, peggio proprio. Sei la prende con Vittorio e basta. Con Vittorio e basta per i fatti loro. Ma Vittorio è informato di questa cosa? Vittorio adesso è appena uscito dall'ospedale, insomma, perché bisogna farlo incazzare con la furia. Comunque ha avuto il suo dell'affare ieri con un'operazione durata 3 ore e mezza. Quindi insomma non è esattamente una passeggiata di salute. È anche vero che sin dall'inizio ha cominciato a raccontare tutto. In televisione, è andato ospite, eccetera. Non sembra proprio un malato, ecco, diciamo la verità. Guarda, io l'ho portato fuori dall'ospedale l'altra mattina alle 7:30 per lasciare libero. Tra l'altro, va bene, meglio così. Ieri quando l'hanno operato questi splendidi, un personale medico fantastico di Frosinone, insomma ieri era pesantemente prostrato da questa cosa. Ho capito, sarà pure prostrato e colpito, però mi sembra che non si sia risparmiato nulla in queste ore. Ma non si è risparmiato nulla, perché così, perché ha un carattere meraviglioso. Va bene, va benissimo. Però non si scherza sul fatto che c'è un ragazzo di 30 anni con una bambina, con una moglie che è tra vita e morte perché faceva il suo lavoro. Non si scherza. Se la prenda con Carmi, litigano e basta. Parenzo, no, che c'è? Dico per rasserenare l'animo, chiedo alla regia, Riccardo Poli, se mi dà una mano. C'è una canzone che avevo messo da parte per il venerdì che si chiama Pixi Dixi Fixi del grande Mimmo Locasciulli. Allora, secondo me è il momento di chiudere con un po' di serenità, augurando dai microfoni di Radio 24. No, ma non sei tu a decidere. Ma non sei tu a decidere quando finisce la trasmissione. Giuseppe, ma no, facciamo un po'. Dimmi Diego, Diego. Bravo Riccardo, vedi, tu avevi intervistato un certo Giampiero Samori. Che vuoi da Samori? No, no, voglio dire, adesso saresti candidato alle primarie, è probabile che tu abbia candidato, abbia intervistato una persona che ha un ruolo importantissimo. Vabbè, quello lo vedremo, adesso non fare pubblicità inutile a Samorì. Perché non è il momento. Cioè, allora non facciamo pubblicità a Samorì. Sei passato da Sgarbi a Samorì e devi fare la marchetta a Samorì, abbi pazienza. Mi sembrava una cosa... Non ti sembrava nulla. Ho capito ancora il tuo rapporto con Berlusconi, qual è, dopo tutte le cazzate che hai fatto. Non ho fatto nessuna cazzata io, tutto si sta avverando esattamente come è scritto. Vabbè, poi vedremo, ne parleremo un'altra volta. Parenzo, prenditi Claudia da Milano per concludere, poi ti faccio una canzone finale che è quella che decido io. Claudia. Fix, chi è Claudia? Claudia, eccomi qui. Dica, veloce. Ciao Claudia. Velocissima, volevo fare un intervento a quel signore che lo volevate mandare a Villa Arzilla. Sì. Povero, in fondo lui ha ragione, gli eterosessuali oggi soccombono di fronte agli omosessuali. Io per carità non ce l'ho contro di loro. Ma chi soccombe, Claudia? Lei soccombe di fronte agli omosessuali? Beh, diciamo che... Lei soccombe? No, di io che non soccombo, parlando? Però su. Io sono anche costretta a vedere... a convivere con delle situazioni, perché ormai oggi convivere si parla di omosessuali che hanno dei figli e non uno, più di uno, e che stanno guardi anche per lei ci vuole i figli, per lei da... per no, lei no. Ci vuole questa canzone finale, ci sentiamo lunedì, ciao Davide. Radio 24. La passione si sente.